Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Player One, get ready! Runtime Radio presenta... Archeologia videoludica. È passato veramente tantissimo tempo dall'episodio 1x01 della nuova edizione di Archeologia Videoludica, quella che avevamo detto di far ripartire con i criteri, insomma, più seri, più storici, dove avremmo raccontato la storia del videogioco, che abbiamo già raccontato, ma un po' meglio di quanto l'abbiamo fatto nella prima edizione, dove eravamo ancora un po' acerbi, eravamo un po' giovani. È passato molto molto tempo da questo episodio 1x01, perché nel frattempo ci sono state tutta una serie di problematiche che non sto qui a raccontarvi, ma anche perché comunque c'è un momento in cui bisogna fare anche un po' pausa da tante cose che si fanno, soprattutto quando se ne fanno tante insieme. Però poi mi sono arrivati i forconi sotto casa dicendo: Vizzi, questa la trasmissione la devi assolutamente tirare fuori, e quindi siamo tornati con la puntata 1x02, e adesso fra poco vi diremo anche di che cosa si tratta. Intanto ringrazio come sempre Carlo Buricana per gli assets audio e soprattutto Alex Raccuglia, non soprattutto, anche Alex Raccuglia per il layout grafico e la cover e tutto quanto. Ringrazio chiaramente i partecipanti a questa puntata, ossia Gianluca Santilio. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati. Gianluca Santilio che ha il suo bellissimo canale, l'archivio del signor Santilio su YouTube, andate, che ultimamente è molto prolifico e fa anche delle live interessantissime e collabora anche con Calavera Caffè, il podcast, esatto, delle avventure grafiche, e, che insomma... Devo dire, ultimamente sta sperimentando, è una cosa positiva. Sì, è una fase creativa assolutamente in fermento. Comunque, all'interno di questa nuova edizione di Archeologia Videoludica, insieme a Giuseppe Saso, si alternano parlando ovviamente dei videogiochi nello specifico, quindi magari parlando proprio del gameplay, delle cose, insomma. E invece la parte storica ovviamente non può che essere attribuita al nostro Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, eccoci qua. Partenza diesel della seconda puntata. Siamo diesel, ci vuole un po' di tempo per partire. Ma piano piano, poi dopo le cose ripartono, andiamo, perché avete visto che sono usciti praticamente le ammiraglie, i calibri pesanti, sono usciti tutti, quindi videoludica, archeologia informatica. Tra l'altro archeologia informatica, appunto, che fa sempre riferimento a Carlo Sant'Agostino, che è uscito con una bellissima puntata su su War Games, sul film sì. Assolutamente divertente, e per ricreare il clima del film dietro c'erano delle sparatorie, sentivano i rumori di gente che sparava nell'ufficio l'ufficio, l'atmosfera, perché in ufficio da Sant'Agostino, dovete sapere, si sparano, quindi è una cosa fantastica. E ringraziamo insomma tutti coloro che collaborano, tipo Cristiano Cagliendo, che sentiremo fra poco nell'Uovo del Tempo. Detto questo, ci sarebbero state in questa fase della trasmissione delle piccole notizie inerenti al retro gaming, ma noi ne approfittiamo semplicemente per dire che appunto Archeologia Videoludica, Archeologia Informatica, cioè, è tornata con il suo podcast, ma non solo, sta lavorando moltissimo con il proprio canale YouTube. Infatti, se andate, insomma, vedrete una decina di video pubblicati nell'arco, insomma, dell'ultimo mese, dove alcune fanno parte ovviamente del Computer Vintage Festival che si è tenuto a Roma, e un nuovo esperimento che si chiama Antropologia Informatica, che, se ricordate bene, era una sorta di mini rubrica all'interno delle puntate del podcast, che stiamo trasformando in questa forma video, che sta, pare, abbastanza piacendo. Ora cercheremo anche, insomma, di migliorare un po' nei contenuti, giusto Carlo? Che ancora un po' siamo, ci sono delle imprecisioni, delle cose, ma insomma poi errori siamo di gioventù. All'inizio, dai, e invece tu, Gianluca, c'hai qualche annuncio, qualcosa da fare rispetto a recenti pubblicazioni? Io sono estremamente prevedibile, faccio le mie cose, le mie rubriche come la macchina del tempo e altre, però da un po' di tempo ho aperto un canale Twitch, quindi faccio qualche live però di giochi moderni lì sopra, quindi niente roba per vecchi da retro gaming, ma per giovani appassionati di videogiochi come me del resto. Benissimo, e vabbè, comunque poi dopo, come al solito, nell'altro episodio troverete il link per andare a vedere il canale di Gianluca, ma insomma è abbastanza easy andare su YouTube e scrivere Signor Santilio, esce fuori, insomma, questo è... Poi scrivete tutto intero l'archivio del Signor Santilio. Ma anche solo Santilio, penso che anche solo Santilio. No? Attenzione che con Santilio possono uscire cose strane. No, non è vero. Esce sempre quello. A questo punto io direi che di contestualizzare un secondo, dato che noi parleremo di un evento importante, cioè questo secondo episodio doveva continuare il suo racconto dal punto di vista cronologico, però a giugno del 1978 è successo qualcosa. E quindi sì. prima di parlare di questa cosa che è successa, vorrei contestualizzare storicamente il 78 anche come anno, soprattutto a livello nazionale ma anche internazionale. Quindi facciamo partire l'uovo del tempo. L'uovo del tempo. E ritorniamo qui all'uovo del tempo per raccontarvi quello che nel 1978, e più precisamente a giugno, secondo noi sono gli eventi più importanti che hanno determinato, insomma, la storia del nostro paese, mondo, cosmo, sistema, quello che è. E chi ci abbiamo con noi per parlare di questa cosa? Chi vi ho trovato? Chi vi ho pescato? Lo sapete, perché mi sa che doveva esserci anche l'altra volta, e poi si è dato, perché chiaramente quando si tratta di lavorare si dà, ma poi in realtà poi ritorna. È Cristiano Caliendo. Salve, ma io che ce l'ho qua? Pizzi, si parla di avventure grafiche, che se no scusa, no, cioè, non si parla di avventure grafiche, anche se si parla anche di avventure grafiche. Ci farebbe piacere che una volta tu partecipassi a una nostra puntata dove magari possiamo parlare della prima, le prime avventure testuali, no? Cioè di raccontare come insomma è nato questo genere e tutti i sottogeneri che si sono generati. Sarebbe bello, sarebbe molto bello. Ma ti certo, fare un cazzo, perché insomma questo lo sappiamo, e quindi, ma non è vero, dai, non è vero, ti voglio bene lo stesso. Comunque, Cristiano, ma pensa che da un po' che non ci sentiamo noi due, scusa, non è vero, ci sentiamo spesso e ci insultiamo prevalentemente. Sì, ma in privato, tutto questo in privato, è vero. Invece nei podcast non ci sentiamo più, perché ricordate Cristiano Caliendo è l'autore, l'ideatore, sì, il promotore di Calavera Caffè, che è il podcast sulle avventure grafiche dal quale sono stato cacciato. Veramente. Cacciato, certo, da me, perché da Caliendo in particolare, perché lui diceva: io voglio fare divulgazione. E dove c'è Pizzi non si può fare divulgazione. Ma io gli non solo, ma poi tu mi hai richiamato per questo podcast per poter fare divulgazione. Quindi, divulgazione, diciamo, esatto, infatti. Ho richiamato perché tu sei la divulgazione, no? Però poi dopo. Esatto, poi vediamo. Poi dopo quello che succederà a Calavera Caffè, dopo che sono stato cacciato, questo insomma lo scopriremo dopo. Però comunque, Cristiano, e questo è l'uovo del tempo, è pure insomma una cosa abbastanza importante, perché fa parte di un programma oramai storico e la gente ci chiede con i forconi e purtroppo non abbiamo molto tempo per poter far conversazione come mi piacerebbe, però un giorno magari vengo in Calavera, mi butto dentro, dico, e anche se mi avete cacciato possiamo parlare di cazzo. Ma sì, ma in realtà scherziamo, la porta è sempre aperta, sempre, per te, pizzone sempre aperta, soprattutto se devi uscire, se devi entrare dopo diventa difficile, però no, scherzo. Lo sappiamo tutti che stiamo scherzando. Ti rinchiudiamo dentro. Poi so che insomma state producendo tantissime puntate, quindi no, però fate le live. Live è un esperimento interessante. Bravo. Lì si vede che c'è lo zampino di Santilio. Cioè, loro hanno sostituito una competenza tecnica con un'altra. Capito quanto sono bravi? E questo è la cosa importante. Poi soprattutto Santilio. E poi abbiamo chiuso la porta. Ricorda sempre: abbiamo chiuso la porta con Santilio. Non esce più adesso. Non esce, esatto. Quindi non è che la porta è aperta. No, può essere. No. Insomma, anche Santilio è in studio qui con noi. Ma dopo, insomma, ritorniamo da loro. Quindi, comunque, vabbè, torniamo alle cose serie. Stiamo parlando di giugno 1978, che è l'anno in cui è nato il tuo gioco preferito, che è Space Invaders. No? Tu ci giochi. Beh, io l'ho recuperato successivamente, certo, cioè giocavo lì nell'ufficio di mio nonno, perché già io ai tempi mi mandavo dei fancazzo. Chiaramente. E quindi... Ma come potresti smentirti, insomma? Certo, e quindi io ho giocato, l'ho recuperato lì insieme ad altri giochilli di quel periodo, insomma, perché poi è nato dopo, no? Perché ricordiamo che, esatto, ricordiamo che Cristiano Caliendo è un pischello, fondamentalmente, cioè, rispetto a noi altri vecchiardi c'era una diecina, quindicina d'anni di meno, insomma, giusto? Ma sì, sono dell'82 io. Intanto c'è Phantasm dentro casa di Cristiano Caliendo, ricordiamolo. E siamo in collegamento con Phantasm, che se vi ricordate è quel film horror dove a un certo punto c'era questa palletta che volava con dei trapani e si conficcava praticamente nella testa della persona e gli trapanava gli occhi. Era una cosa... Ma questo è niente, vedrai, alle 8, 7 e mezza di mattina è molto peggio. Ma è molto peggio, vabbè, infatti penso che sei stranito, insomma, in questo periodo, però, e per questo hai un po' della mia ammirazione, poca perché chiaramente non è... Quindi, Cristiano, 1978, giugno. Ma, allora, tu mi hai detto di portarti tre notizie, io te ne ho portate cinque, perché voglio esagerare, voglio essere più tempo possibile. Voglio esagerare, esatto. Perché te voglio bene. Bravo. Allora, cominciamo con una leggera, del 23 gennaio, ovviamente io leggo tutto, cioè qua a memoria niente. Il 23 gennaio la Svezia diviene la prima nazione a bandire le bombolette spray, il cui contenuto di clorofluorocarburi è il principale imputato del danneggiamento dello strato di ozono protettivo della terra. Insomma, Svezia avanguardista, diciamo, insomma, no? E vabbè, ovviamente la bomboletta spray sappiamo che insomma funziona con un liquido la cui espulsione avviene grazie a un gas liquefatto che ha lo scopo di diffondere il contenuto di bomboletta sotto forma di aerosol, inventato addirittura nel 1926 da un chimico norvegese, non svedese, ma bensì norvegese, Erik Rotan. Ed è probabilmente il motivo per cui l'hanno bandito, cioè che i svedesi sono detti fratello, l'abbiamo inventato noi, no, il norvegese, allora lo bandiamo immediatamente, cioè non potrebbe essere altrimenti. Esatto, nel 1939 si produsse la prima bomboletta spray, mentre invece il chimico norvegese inventò il processo, diciamo. Comunque, una delle prime applicazioni importanti dell'invenzione fu durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu approntato uno spray destinato a diffondere insetticida contro gli insetti portatori della malaria. Ah no, contro l'esercito avversario. No, gli insetti. Ma secondo me anche, però, probabilmente. Sì, forse poi dopo secondo utilizzo. Nel 49 invece si usò per la prima volta lo spray, bombolette spray con la vernice, no? A cui dobbiamo, insomma, varie pittoreschi, diciamo, pittoreschi opere d'arte in città, sui muri, insomma. Tipo che figure falliche o cose del genere, insomma. Cose del genere. Inizialmente il gas più usato nelle bombolette era il freon, ma dall'89 è stato messo al bando perché, insomma, danneggia l'ozono e eccetera eccetera. Comunque adesso vengono utilizzati altri prodotti che adesso, beh, protossido d'azoto, biossido di carbonio, cose che insomma troppo elevate per Caliendo sicuramente. Quindi insomma, ecco, questo è un la Svezia ha detto a un certo punto già nel 1978, voi considerate che noi di questa cosa ne abbiamo iniziato a parlare nei telegiornali degli anni 90, quindi insomma. Allora, quando, perché negli anni 80 usavamo tanta lacca in particolare, e la Svezia già l'aveva messa al bando, quindi bravi svedesi, sempre un pezzo avanti, insomma. Non erano solo gnocchi che la davano, insomma, quindi. Ci torneremo comunque. Allora, la seconda notizia invece risale al 22 maggio, questa è un po' più in cui in Italia venne approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, e qui, insomma, già siamo su un tema più importante, diciamo. Vedi che io ti porto alterno cose giusto, quanto ne so, comunque quanto sei Caliendo dentro. L'aborto è possibile nei primi 90 giorni di gravidanza, solo che c'è un problema che è venuto fuori soprattutto negli ultimi tempi, cioè stando agli ultimi dati il problema in Italia è che sì, c'è questa legge, però ci sono moltissimi medici obiettori, no? Per esempio in Molise gli obiettori sono il 93,3% dei ginecologi, poi il 92,9% Bolzano, il 90,2% in Basilicata, 87% in Sicilia, in questo Campania, è perché, vabbè, è vero che poi questa cosa si è manifestata in particolare negli ultimi anni, particolare, sì. Però c'è sempre stata, ed è vero pure che questo ti dice quanto l'Italia, sì, magari vuole fare una legge che guarda un po' avanti, anche se poi uno può avere la propria opinione personale, no? Però qui si tratta di libera scelta del fare o non fare determinate cose, però poi allo stesso tempo non è che mette in atto un sistema di equilibrio, cioè è giusto ci sia il medico obiettore, se secondo la sua coscienza, no? Non si deve fare questa cosa, però non può essere che all'interno di un ospedale o non attendono nella regione c'è il 90% dei medici obiettori, cioè deve essere distribuita sta cosa, perché altrimenti non ha senso, perché dove è il mio diritto? Cioè. È un'anomalia italiana, perché è una delle percentuali più alte a livello internazionale. Per esempio, in Gran Bretagna il tasso scende addirittura al 10%, in Francia al 7%, in Germania al 6%. Ci sono dei paesi in cui l'obiezione di coscienza non è nemmeno concessa, come per esempio la Finlandia, la Norvegia e, indovina un po', la Svezia. Beh, tu considera, e questo non c'entra molto, però io mi ricordo quando ero piccolino feci un intervento chirurgico, mia madre andò dal professorone e disse: professore, com'è andato? Com'è andato l'intervento? E lui disse: siamo nelle mani di Dio, cioè una cosa del genere, no? E allora mia madre gli dice: come nelle mani di Dio? Non l'ha operato lei, giustamente. Certo. Ma sai che è una grandissima risposta, grande stima, grande mamma, va bene, ci sta, ci sta. Purtroppo questa è un po' una cosa culturale nostra, cioè nel senso, se sei medico, se sei scienziato, non mi puoi parlare delle mani di Dio, insomma. Comunque vabbè, concordo. Comunque, allora, la terza news, visto che siamo anche un po' in atmosfera calcistica, diciamo, in questo periodo, ci fu il calcio d'inizio dell'undicesimo campionato del mondo di calcio in Argentina. Vogliamo subito sapere l'Italia che fece, perché contrariamente a questi mondiali si qualificò in quel caso. Ma guarda, se non mi sbaglio arrivo a quarta l'Italia, se non mi sbaglio, potrei... così è spoiler, scusa. Sì, insomma, pensavo che me l'avevi domandato, se me l'avevi domandato io ti rispondevo, insomma. Vabbè, ma era una di quelle domande che poi uno retoriche dice, fammelo sapere. Dimmelo tu, Caliendo, ti prego. Ecco, sì, perché poi d'altra parte, se no, che ce le ho fatto tutti questi appunti da leggere. Che insomma. Poi diciamo che fu il mondiale delle grandi polemiche, perché la FIFA assegnò all'Argentina e diciamo che mezzo mondo si incazzò, perché ricordiamo che l'Argentina allora non solo era una dittatura, ma era anche una dittatura di quelle, insomma, nazi gravi, insomma, perché infatti c'è gente che moriva, che spariva, insomma, ricordate, insomma, tutta la storia dei desaparecidos. Però vai, vabbè, sei proprio in vena di spoiler. Comunque, vabbè, comunque l'Italia che sconfisse l'Argentina, l'Italia, esatto, nel girone, esatto, 1-0 vinse la prima fase. Poi invece nella seconda fase a girone, perché non è che funzionava proprio esattamente come adesso, l'eliminatore, eccetera, eccetera, praticamente venne eliminata a causa della partita contro i Paesi Bassi, che perse 2-1 dopo parecchie polemiche. Poi fece la finale del terzo e quarto posto, che l'Italia tristemente perse contro il solito Brasile. Esatto. Sai, anche io voglio andare in Brasile con Roberto, come dice Oliver Hutton, il mio idolo assoluto. E quindi il torneo invece venne vinto dai padroni di casa dell'Argentina. Il 25 giugno del 78 sconfissero per 3-1 i Paesi Bassi, che fu una partita sangue e arena. Comunque era l'Olanda, non erano i Paesi Bassi. Vabbè, insomma, però vabbè. Siamo lì, sì. Una partita in cui sganassoni volarono, diciamo. Sì. E infatti ci furono molte polemiche. Ulteriori tante altre polemiche, sì. C'è gioco molto, molto violento, insomma. Comunque alla fine pensa che ne vinsero, mi sembra, nei tempi supplementari, e fu anche criticato molto l'arbitraggio dell'arbitro italiano, peraltro, che dissero che fu molto permissivo in favore degli argentini. Pensa che nemmeno l'Olanda, detti anche i Paesi Bassi, si presentarono per ricevere il premio per il secondo posto. Hanno fatto benissimo. Ho rosicato tantissimo. Qual è secondo la tua memoria il mondiale che ha subito più condizionamento dopo questo argentino dalla presenza dei padroni di casa? Vediamo se te lo ricordi, così, dai. Quello della Corea, scusa, bravo. L'arbitro Moreno, che se lo scordo. Ricordiamo che bellissima. Per la prima e unica volta la Corea è arrivata tipo in semifinale, una cosa del genere. Sì. No, ma lì fu veramente una roba effettivamente clamorosa. Ci rubarono la partita a noi con l'arbitro Moreno, ma ancora peggio al turno successivo alla Spagna, perché vinsero pure contro la Spagna con arbitraggio ancora peggio. Insomma, quindi va bene. Se ricordo bene, in quell'anno l'Italia era anche piuttosto forte. Beh, sì. è una buona squadra. Va bene, passiamo alla quarta notizia. Qui andiamo proprio, qua divento un po' Cecchi Paone, diciamo, perché il 22 giugno viene scoperto Caronte, il primo satellite di Plutone. Questa è una cosa molto interessante. Ah, io pensavo quello che traghettava le anime. No, vabbè, ma tu se mi fai spoiler ogni 3 secondi. Che cazzo. Vabbè, ho capito. Parte subito un contributo. Allora devo stare zitto, scusa. Esatto, il contributo è il seguente. Caro, non ti crucciare, vuol sì così colà dove si può, e ciò che si vuole e più non dimandare. Mamma mia. Citazione, ma poi, dantesca. Poi il Dante Alighieri letto in napoletano è veramente qualcosa di questo ovviamente è Virgilio che si rivolge a Caronte, che porta le anime qua e là. E allora il diametro di Caronte è di poco più della metà di Plutone, in realtà, quindi insomma piuttosto grandicello, nonostante Plutone poi non è che non è fra i pianeti più grandi, però questo è un satellite che rispetto al pianeta è piuttosto grande. Mentre Plutone è ricoperto di ghiaccio, d'azoto e metano, la superficie di Caronte appare ricoperta da almeno volatile ghiaccio d'acqua e sembra priva di atmosfera. Sembra comunque che la formazione di Caronte sia avvenuta a causa di un grosso impatto avvenuto 4 miliardi e mezzo di anni fa. Pensa un po', vedi? A quanto cioè in modo abbastanza simile a quello che è successo con la nostra Luna, se vogliamo. E vabbè, quindi insomma, un oggetto avrebbe colpito Plutone ad una velocità elevata, si è disintegrato e quindi ci sono stati questi pezzi l'orbita che poi i detriti si sono riassemblati, si sono aggregati e quindi è stato un Nibiru, chiaramente. sì, probabilmente sì. Alcuni ritengono che Plutone e Caronte possono essere i resti di due protopianeti invece entrati in collisione l'uno con l'altro ad una velocità elevata, ma non sufficiente a provocare la disintegrazione di nessuno dei due. Adesso, se vuoi sapere, perché so che te lo stai chiedendo, quali sono gli altri satelliti di Plutone, io te li dico subito: sono Stygie, Notte, Cerbero e Idra. Così non c'entra tutti niente, belli, poi tutti bei nomi. Beh, sì, tutti che evocano esatto. Ci mancava solo Shiva e Ifrit, e avevamo fatto le summon dei Final Fantasy e stavamo a posto. Vabbè, benissimo. Quello forse dopo. Ho una quinta notizia, Pizzi. E c'è la quinta notizia. Che penso che sia quella, perché tu l'hai messa in ordine di hype, no? Quindi cioè, adesso sarà questa è la più è la più cazzuta. Non ci stanno, non c'è proprio paragone. Infatti, il 28 settembre muore Papa Giovanni Paolo I, detto anche Albino Luciani, cioè no, detto anche il suo vero nome, dopo soli 33 giorni di pontificato. È stato anche l'ultimo italiano a essere Papa, da 66 anni. C'è qui c'è qualcosa che non andava, no? Dicevano gomblotto. C'è il complotto. Aspetta, poi ci arriviamo. Praticamente io lo so che tu ce l'hai messa apposta la notizia. Vabbè, ma è una di quelle più importanti dell'anno, Pizzi. Io sono assolutamente neutrale. Comunque, Luciani scelse questo doppio nome per la prima volta, in realtà, perché volevo ossequiare i due pontefici che l'avevano preceduto, Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI. Comunque, il Papa Luciani si spense alle 23 e dissero che fu fra le 23 e le 5 del mattino, diciamo, e dissero che fu a causa di un infarto miocardico. Secondo un comunicato ufficiale della Santa Sede, il Papa era sbiancato prima di morire perché aveva saputo della morte del giovane Ivo Zini, assassinato a Roma, che era un membro del Partito Comunista Italiano, ucciso, pare, dai neofascisti, insomma, della capitale. Però adesso insomma la cosa importante è questa. Poi in realtà ci furono delle teorie riguardo a questa morte, perché qualcosa insomma era comunque una morte abbastanza misteriosa, e il giornalista investigativo britannico David Yallop scrisse 6 anni dopo un best seller che si chiama In nome di Dio, in cui l'autore ipotizza un omicidio a sfondo politico ad opera di alcuni cardinali che si opponevano agli interventi di riforma programmati dal Papa. E lo spunto comunque è offerto soprattutto dai contrasti che Luciani ebbe con i vertici dello IOR, la Banca Vaticana, guarda, e dalle sue convinzioni sempre, ma guarda un po', penso che... il Papa fu sempre sostenitore di un'idea di una banca etica, avrebbe voluto devolvere ai poveri un 1% delle entrate del Cristo. Ma che sei matto? Ma chi ti ha detto Gesù Cristo di fare una cosa del genere? Ma stai scherzando? non esiste. Da questi presupposti è desunta l'esistenza di controinteressi all'attuazione di alcuni ipotetici progetti di riforma. Tra le personalità da rimuovere dalle loro funzioni figurerebbe in particolare l'arcivescovo Marcinkus, che era la sua nemesi, che già il nome, vuoi dire, è un po' da Star Wars, no? Marcinkus è un po' è un Sith, questo è proprio, già solo il nome è un Sith. Darth Marcinkus. Esatto, Darth Marcinkus che l'ha fatto. Sì, praticamente sì, David Yalop dice che afferma che Albino Luciani fu ucciso per avvelenamento, quindi la sua tesi però si basa su delle testimonianze indirette, in realtà non ci sono prove concrete di quanto dice, anche lui lo dice lui stesso, dice ammette di non possedere prove, e indica la cosiddetta smoking gun, la pistola fumante, la prova decisiva del crimine, negli appunti che il Papa stava leggendo poco prima di morire, che però sono andati perduti, quindi grazie Yallop, non ci aiuti minimamente. C'è sempre una valigetta che sparisce quando mi ricorda poi tra l'altro un videogioco questa cosa che... fra l'altro ecco, vabbè, ma questa cosa è assolutamente casuale, ecco, ma diciamo che il saggio di David Yallop ha anche ispirato una famosa avventura grafica, Shadows on the Vatican, vogliamo dire, ma solo perché voglio fare un link con il mio settore, diciamo, esatto, no. Sembrava giusto. Poi dopo se andate a vedere i titoli di coda, non vi fate domande, perché poi dopo arriva lo Yor, capito? Sì, lo Yor, c'è lo Yor, c'è tutto in questo, questa avventura, c'è veramente tutto. Vabbè. C'è anche la scena erotica sempre questo. Beh, questa ci però siamo, diciamo che positivamente la ricostruisce un po' l'atmosfera della Roma di quegli anni là, se non fosse per il fatto che chiaramente io mi fermerei qui, comunque, esatto, perché mi piaceva come stavi andando. questa ovviamente la Chiesa l'ha attaccato violentemente questo saggio, non il gioco. Come avrebbero ma il gioco non lo conoscono, perché sennò avrebbero cercato anche e addirittura l'hanno definito infame spazzatura, nonostante tutto comunque è diventato un bestseller. Vabbè, quindi insomma ci sono andati delicati col giudizio, insomma, sempre molto cristianamente, insomma. Sì, perché l'1% lì veramente sull'1% hanno sbroccato. Sai, il 0,02%, ma l'1%, ma stai scherzando? Ne potevamo parlare, maledetto Papa. Che è andata a poco. Adesso te la faccio vedere io l'1%. E l'1% di cianuro ogni giorno è. No, vabbè, non lo sappiamo. Chiaramente ci facciamo a Yallop che ne sapeva più di noi, insomma. Quindi qualsiasi cosa prendetevela con lui, perché sarà morto probabilmente. Querelate lui, diciamo. Sinceramente non lo so, non penso sia morto. Ma secondo me è morto, vedrai che è morto. dopo questo podcast lo sarà sicuramente. Potrebbe sembrare morto. No, tu devi dire, ma c'è morto? Cioè, non lo so, ma da mo' che è morto, quindi così lo salvi, capito? Nessuno lo va a cercare. Sì, assolutamente. Va bene, Volevi aggiungere altro? No, assolutamente. Io già ho aggiunto tantissimo. 5 news, vizi. Dove lo trovi? Stai scherzando, infatti. E tu nel 1978 che avevi? Avevo meno 4 anni, vabbè, dai, tutto sommato alla fine non eri neanche tanto lontano, insomma. No, ma infatti so pure c'ho una certa curio, pensa che nella mente di qualcuno si stava ipotizzando di pensare a te, pensa invece che nella mente di qualcun altro si pensava di fare un podcast sulle avventure grafiche, poi però qualche impedimento non si sapeva che cos'era il podcast allora, però qualcuno ci ha sicuramente pensato, insomma, va bene. Grazie Cristiano di questo tuo intervento, speriamo insomma anche nelle prossime puntate sarà più facile, perché ogni volta prenderemo magari delle date o un'area temporale molto più precisa, quindi dovrai trovare poche robe, quindi sì, ma tu ricambierai, scusa Pizzi, no, perché io ogni tanto apro la porticina, perché quella non voglio far uscire Santilio, però poi la apro un pochino per te e poi la chiudo un'altra volta, va bene. Posso fare puzze? sì assolutamente. Ti è concesso. Benissimo, saluto Cristiano Caliendo, quindi del podcast ciao. Calavera Caffè, e di ciao tante anche altre agli cose. Altri partecipanti, ovviamente. Esatto. Ok, grazie, alla prossima, Cristiano. Ciao, grazie a te. E ringraziamo Cristiano per questa sua collaborazione, sempre Cristiano Caliendo, dato che abbiamo già citato, sempre del podcast Calavera Caffè, che ci dà una mano in questa ricostruzione storica, diciamo contestualizzazione storica un po' anche allegra, insomma, perché da adesso in poi inizia la trasmissione seria. Però dato che fra un po' inizia la trasmissione seria, io direi se torna archeologia videoludica, torna anche una tradizione d'archeologia videoludica, che erano i brani musicali di Andrea Milana, che storico, proprio storico. Quindi assolutamente, Gianluca, che facciamo? Lo lanciamo questo brano, così poi sì, entriamo. Sì, lanciamolo anticipandovi questa cosa, che Space Invaders una musica non ce l'aveva, e quindi pensate alla qualità del lavoro che ha fatto Andrea. Yeah. forte, eh? Allora, erano suoni campionati dalla versione arcade, come avrete immaginato, quindi lui li ha manipolati dentro un programma che ha utilizzato, un hardware anzi, che ha utilizzato, chiamato Electron Digitact, per ottenere tutto quello che si sente poi all'interno del brano: synth, batteria, basso, effetti sonori. E la tecnica utilizzata si chiama granular sampling, o sintesi granulare per i meno anglofoni di noi. E ovviamente l'arrangiamento del gioco è ispirato al ritmo di Space Invaders, degli alieni di Space Invaders sullo schermo. Andrea la indica come elettronica lo-fi da sfumature psichedeliche. Comunque fantastica, secondo me. Riassunto, beh, devo dire che è una bella musica. No, riassunto, no, no, devo... è un bel brano. No, no, devo dire che ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché come diceva Gianluca, il tema della puntata appunto è Space Invaders. Ci ho girato intorno, poi alla fine non l'avevo neanche detto, ma devo dire che Space Invaders, come diceva giustamente Gianluca, non aveva una musica, aveva questo suono cadenzato, che poi tra l'altro scandiva anche l'acceleramento del gioco in sé quando andavi avanti, che è appunto, esatto, no? E poi c'erano altri, esatto, suoni, e lui è riuscito da questo guazzabuglio di suoni arcade anni 80, perché stiamo parlando insomma degli anni del 78 appunto, è riuscito a tirare fuori questo brano musicale che è veramente qualcosa di clamoroso. Grande Andrea, come al solito. E a questo punto iniziamo con la parte reale della trasmissione. Quindi, giugno 1978, nasce Space Invaders, o ancora meglio, Carlo Sant'Agostino. Nel giugno del 1978 fummo invasi dagli alieni e non lo sapevamo. E non lo sapevamo. In realtà l'invasione era già cominciata da tempo. Space Invaders, ricordiamo, non è il primo. No, ma soprattutto non è neanche il primo videogioco a tema spaziale. Di questo c'è da dire una cosa introduttiva riguardo al 1978. Il 1978, se vogliamo, e Space Invaders, attualmente viene sempre ricordato come il videogioco che ha dato il là all'esplosione del fenomeno videogaming nel mondo, quindi ha una conoscenza del videogioco proprio a livello mondiale e capillare. Però il videogioco, come già sappiamo, il mercato, okay, del videogioco viene indicato con la diffusione del Pong nel 1972, la sua nascita, e nel 1978 stava raggiungendo quella che era la sua prima maturità, perché purtroppo noi ricordiamo pochi giochi di quel primo periodo della nascita del videogioco. Pochi di quelli vengono veramente ricordati a livello mass media, diciamo, a livello di fama generale, dici, okay. Esatto, generale popolare. In realtà tra il 72 e il 78 uscirono tantissimi videogiochi, ma veramente tanti. Cioè, sono andato recentemente a riguardarmi, giusto per fare una veloce retrospettiva panoramica di quegli anni, e la quantità di giochi che uscirono tra il 72 e il 78 mi ha stupito. Tantissimi giochi che addirittura non ricordavo, pensavo successivi, in realtà erano usciti in quegli anni, senza contare che, come ho già avuto modo di dire altre volte, anche tantissimi prodromi di tipologie di videogioco furono inventati in quegli anni. Tantissime tipologie di videogioco furono inventate in quegli anni. Quindi nel 78, per esempio, faccio giusto velocemente per ricordare, dopo il classico Pong del 1972, con tutte le sue varianti di soccer eccetera, con più palettine, meno palettine, già nel 1973 per esempio l'Atari rilascia il primo videogioco con un labirinto, che era Goccia. Rilascia sempre Atari Space Race, che era una specie di doppia guida di astronavi, gara di astronavi nello spazio, per esempio. Già questi sono già tutte e due del 1973. Nel 1973 viene rilasciato anche un libro, quello di cui abbiamo già parlato, per esempio, in archeologia informatica nella puntata del Basic. Viene rilasciato 101 computer games in Basic, cioè già 101 giochi in Basic raccolti nel 1973 in un libro. Per quando io avevo un anno, già 101 giochi semplici, ma tantissimi. Nel 1974 già la Taito esce con un gioco del basket che utilizza dei caratteri disegnati come mini, i primi sprite a forma di giocatori nel 74. Sempre nel 74 l'Atari rilascia Grand Track, che poi è quello che sta alla base di Indy 500 sull'Atari 2600. Vabbè, faccio veloce perché sennò, come ho detto, la puntata diventa di 7 ore, quindi cerco di riassumere. Poi te lo dico già, Simone, dovremmo fare una puntata apposita in cui magari andremo a vedere questi primi anni nel dettaglio, certo, tantissimi, sì, di questi, sì, giochi che hanno creato poi generi, hanno ispirato generi e in futuro hanno dato sicuramente degli imprinting a tutto quello che è venuto dopo. Certo, infatti lo dicevamo all'inizio, che in realtà questa è una puntata che nasce occasionalmente per l'evento in sé. In realtà noi avremmo dovuto riprendere il percorso da dove c'eravamo fermati. Nasce per caso, perché non so se ti ricordi com'è nata nell'ultima puntata. Ce ne siamo accorti per caso. No, ve ne siete accorti per caso, perché nell'ultima puntata di Videoludica tu fai: ma cos'è che compie gli anni? E pensavi a Tetris, io ti ho detto Space Invaders. E tu, aspetta un attimo. No, è vero. Tra l'altro sono molto contento del ritorno di Videoludica, perché abbiamo ricevuto molti feedback positivi, quindi il ritorno un po' all'antico, alla trasmissione un po' più dietrologia videoludica, diciamo, insomma, questo ci fa molto piacere, quindi cercheremo, insomma, di ripercorrere questa cosa, perché nell'ultimo tempo eravamo diventati forse troppo show e poco contenuto, no? E questo poi bisogna anche sentirlo, il feedback, no, della gente che ci sta, insomma. Quindi vabbè, fondamentalmente ritorniamo un pochino a questi anni, e nel caso specifico parlo solo dell'inventore di Space Invaders. Scusami, Carlo, un'ultima cosa che volevo dire, sempre a questo, per dare un'idea del 1978 come avanzato fosse in realtà, nonostante sembri preistoria. A questo punto, sì, nel 77 era stato pubblicato l'Atari VCS, sì, quindi addirittura ci arrivavo. Scusami. No, tranquillo, era previsto. Pensavo avessi escluso. No, e mi ero fermato al 74, volevo dire una cosa, che nel 74 esce per esempio il primo gioco che consacra l'autore che farà Space Invaders, cioè, adesso la mia pronuncia, Tomoshiro Nishikado, ecco, diciamola in romano, in italiano, come vogliamo, Nishikado. Quello che è, poi ci correggeranno è più difficile Tomohiro che Nishikado. Tomohiro, va bene, vabbè, non so come mai, ma mi ricorda quei bastoncini di cioccolato, esatto, di biscotti, che non mi ricordo come si chiamano. Perché si chiamano Mikado quelli, secondo Mikado, me. Ecco. Che significa imperatore in giapponese. Va bene. Quindi ti immagini l'imperatore di cioccolato. Comunque nel 74 esce il videogioco, il primo videogioco di successo di Tomohiro, che è Western Gun, quello che viene pubblicato poi, che sono i due pistoleri, fantastico, che si contraccolpano. Ecco, è lui che l'ha inventato questo gioco. Grande. Pensa che oltretutto lui lo creò in Giappone nella classica versione TTL. Ecco, questa è un'altra cosa importante da dire, perché in quegli anni i videogiochi arcade erano più progetti hardware che programmazioni software. Era, certo, chi faceva arcade e videogiochi in quell'epoca era molto elettronico, progettista, perché la programmazione del videogioco, cioè il fatto di scrivere codice per programmare il videogioco, è qualcosa che è nato nell'arcade in quegli anni, dove la produzione dell'arcade era più la progettazione elettronica, perché doveva essere qualcosa di poco costoso rispetto alla creazione di un vero e proprio mini computer dell'epoca. In quegli anni però, con la nascita proprio in quegli anni e la diffusione dei primi microprocessori, questo stava cambiando, cioè le piastre madri, le PCB degli arcade stavano diventando dei mini computer, quindi con il loro programma, con il loro microprocessore, e il videogioco del 74 che ho citato prima. Adesso io, come al solito, ogni tanto ho dei voti sì, ho detto Western Gamma, era la versione americana, adesso devo ritrovare il nome giusto, se no mi uccido. Se vuoi il nome in giapponese, vai Tsukari Marekonu, non so. Non voglio il nome giapponese, se no facciamo di Santilio, che Santilio è preparato. Gunfight, cosa volete dire? Cocco, bravo, vedi, mi serve uno che ogni tanto mi ricordi i nomi giusti delle cose. Il nome occidentale, in realtà, Gunfight, nonostante sia western, quello giapponese. Esatto, perfetto. E poi ricordiamo che è importante il nome, se quello giapponese, scusa Carlo, se quello giapponese si chiama Western Gun, i giapponesi l'avrebbero pronunciato Westerenu Gunnu, perché sapete che i giapponesi hanno questo problema col chiudere una parola senza la vocale, quindi per loro è un po' un problema, insomma. Vabbè, comunque in realtà il videogioco americano, cioè la versione americana, è importantissima perché rispetto a quello originale progettato da Tomohiro, utilizza per la prima volta un microprocessore, utilizza l'Intel 8080, cioè la Williams, che prese i diritti per rifarlo negli Stati Uniti. All'epoca non è che un videogioco veniva progettato in Giappone e poi questa è una cosa che spiegherò poi più avanti, perché è interessante anche per il mercato europeo, poi vi spiegherò perché. I videogiochi venivano per esempio progettati, non so, dalla Taito in Giappone, un videogioco, piuttosto che dall'Atari negli Stati Uniti, un altro videogioco. E questi videogiochi progettati non è che poi venivano prodotti, metti in Giappone e poi esportati già costruiti e andavano negli Stati Uniti, no, cioè veniva venduto il concept e queste venivano ricostruite poi negli Stati Uniti o in Europa, dove dovevano essere diffusi, perché far viaggiare tutto l'arcade era costoso, quindi venivano venduti i diritti e avevano prodotti poi le piastre madri localmente, i vari caso... manufactured by Midway by, esattamente, dipende esattamente da questo, dipende proprio da questo. E nel caso, e poi scusa Carlo se ti interrompo, la cosa straordinaria non è tanto questa tecnologia di per sé, che poi noi diciamo tante volte avanzata o non avanzata, roba del genere. Veramente, se c'è un qualcosa che distingue l'epoca dalla nostra epoca, era proprio la non globalizzazione, no? Cioè il fatto che, esatto, che comunque il fatto di produrre una cosa da una parte non significava che quella cosa avrebbe viaggiato per tutto il mondo, no? Quello quanto che era più complicato il procedimento di distribuzione di un qualsiasi tipo di prodotto, no? Soprattutto questi. Assolutamente, è quello che abbiamo appunto, di cui ho appunto parlato nell'ultimo episodio di Videoludica. E il Western Gun, quindi la versione americana di Gunfight. Gunfight, la versione americana di Western Gun, la Taito, Midway rilascia Gunfight in America, utilizza un microprocessore, utilizza l'8080. Questo influenzerà lo stesso Tomohiro, che per il suo successivo videogioco, cioè Space Invaders, utilizzerà per la prima volta un microprocessore per fare un videogioco. Quindi Space Invader è anche il primo videogioco con microprocessore, quindi programmato con codice, rispetto ai precedenti che ha fatto Tomohiro, che erano tutti videogiochi invece progettati elettronicamente con TTL, quindi in maniera con elettronica discreta. Logica discreta, esattamente. Sui precedenti Speed Race e altri ne ha fatti parecchi prima di arrivare a Space Invaders. E come appunto diceva prima anche Santilio, nel 1977 il mercato era veramente qualcosa di già esteso, già pronto, perché nell'anno precedente, cioè nel 77, esce appunto anche l'Atari VCS, l'Atari 2006, quindi diciamo la prima console di successo mondiale di tipo moderno, quindi non è la prima ovviamente, come alcuni sanno, a introdurre il concetto di cartridge programmate come processore ROM, perché prima ci fu il VES l'anno precedente, il Video Entertainment System della... non mi ricordo anche di la marca, ragazzi, scusate, ma stasera con i nomi faccio schifo. Intendi il Fairchild, il Fairchild, esatto, okay. si chiamava VES, Video Entertainment System. Fairchild era la marca, okay. Adesso noi lo conosciamo come Fairchild F8, che era il microprocessore che veniva utilizzato nel Fairchild. Infatti il VES, il nome Video Computer Synthesis, cioè VCS dell'Atari, fu ispirato proprio dal Video Entertainment System della Fairchild dell'anno precedente. Si chiama così, quelli l'hanno chiamato VES, Atari l'ha chiamato VCS. Come al solito Atari arrivava poco dopo, copiando qualcuno che c'era poco prima, ma vendendolo meglio, facendolo meglio e vendendolo meglio. E questo Atari poi è diventato quello che è diventato, cioè il protagonista di tutto il primo decennio della storia del videogioco, sì, e del mercato del videogioco. Comunque, come ho detto, il microprocessore importante perché appunto con Western Gun la prima volta in Gunfight viene utilizzato, e nella progettazione, come ho detto prima, in quegli anni chi progettava i videogiochi, ecco, la figura del game designer puro, cioè di quello che ideava il videogioco, non era ancora nata, cioè non era ancora chiara. Il progettista e l'ideatore di videogiochi era il tecnico in quegli anni, cioè era quello che anche si sporcava le mani con l'elettronica, questo fino all'anno, uno, due anni dopo, quando poi con Nintendo, sappiamo tutti, con Donkey Kong nacque un po' questa figura, con era più americana quella del tecnico designer, forse. No, anche giapponese, anche Giappone, fino a Donkey Kong, è stata Nintendo con come si chiamava l'inventore di Donkey Kong? Tu non fare domande quando non siamo comunque fino a Donkey Kong. Era proprio di Shigeru Miyamoto? Miyamoto. Donkey Kong, pensavo non esatto. fosse il produttore Miyamoto... era Yokoi, comunque esatto. Sì, Yokoi era il tecnico, era l'ingegnere, quello che poi ha inventato anche il joypad. Donkey Kong, Miyamoto fu il primo non tecnico, non programmatore, a disegnare videogiochi, e avvenne quasi per caso, perché fu assunto come disegnatore in Nintendo, doveva occuparsi della grafica, e a un certo punto lui disse: ma a me vengono in mente dei videogiochi, posso parlare con qualche programmatore e spiegargli come voglio il videogioco, lo facciamo, e gli diedero questo. Immaginate questo, nel Giappone permesso. Nel 1978 tutti che se lo guardavano strano, tu non può parlare. Questo sto parlando dell'80, quindi di due anni dopo. Nel 78 eravamo ancora in pieno diciamo dominio dei tecnici, cioè chi faceva il videogioco, chi inventava il videogioco era l'ingegnere, il programmatore, ingegnere elettronico più che il programmatore, perché sia Tomohiro che gli altri erano quelli che progettavano proprio anche le schede hardware del videogioco stesso. Infatti Space Invaders tantissime cose lo deve dell'ideazione a questo fatto, quindi iniziamo proprio a parlare di Space Invaders, di cosa succede nel 78. Quindi concludiamo questa breve tra virgolette introduzione che ho fatto, che sarebbe stata anche molto più lunga, avrei voluto dire molte altre cose, ma come ho detto le lasciamo magari per future puntate di archeologia videoludica. Il mercato del videogioco era qualcosa che quindi stava maturando, era già molto conosciuto il videogioco, ma non era ancora esploso in maniera proprio di fenomeno a livello globale. Certo, tutti avevano presente il Pong, lo conoscevano tutti, si iniziavano a diffondere le prime console, ma era ancora un qualcosa che sì, c'è, però è un qualcosa che non si sa se avrà un futuro o non avrà un futuro. Era un mercato che si stava formando. Space Invaders è quello che catalizza tutta questa, diciamo, storia aggiunta fino a quel momento. Era anche una società che tante volte aveva la doppia anima, no? Magari c'era una parte che vedeva il nuovo positivamente e c'era la parte che vedeva il nuovo negativamente, un po' come questo in generale sempre succede, però sicuramente magari io vedevo, capito, il pastore della chiesa protestante americana nella provincia e dice questo strumenti del demonio. Ho capito, ma questo sempre comunque indipendente dal fatto, cioè questo lasciamo, cioè è per come è fatto, no, l'uomo. Lo so, però fa facilmente un po' di folklore, perché se va no. Bene. Comunque perché Space Invader catalizza questo? Perché, se vogliamo, è veramente il più bel gioco che esce in quell'anno, nel 1978, in cui c'è la maturazione di questo mercato e quindi esplode. È quasi una conseguenza, cioè non è che voglio togliere tutti i meriti a Space Invaders, per carità, perché è un bellissimo videogioco che è diventato e adesso è l'icona del videogioco stesso nella nostra... Eh sì, è una delle 3-4 icone del videogioco in assoluto. Il videogioco forse. Comunque sicuramente viene riconosciuto come di questa, però sì. Diciamo che il merito non è tutto di Space Invaders, ma di tutto il percorso dei videogiochi che arrivano fino a Space Invaders nel 1978. Innanzitutto andiamo a vedere l'idea di Space Invaders, dove nasce. Domanda, voi la sapete l'idea del gioco, proprio fisicamente del gioco, Tomohiro, da Gianluca, dove la tu prende? Lo sai, io lo so che tu lo sai. Io so che non lo so invece. La prende da quello che era il videogioco più di successo dopo Pong di quegli anni, che era Space Wars? No, Breakout. Ah, Breakout, certo. Breakout, che esce nel momento dell'Apis. Breakout qual era? Breakout è il muro di mattoncini, quello che poi tutti ricordano. Quello che poi è diventato famoso. Arkanoid, ok. Bravissimo, esatto, tutti ricordano come Arkanoid. In realtà ricordo anche come Breakout, però in questo momento ma pochi lo ricordano. Breakout è fondamentale, poi magari faremo una puntata speciale. È fondamentale per mille motivi, non solo perché coinvolge anche la storia della nascita degli home computer di Apple. C'è dentro Steve Jobs, c'è dentro un sacco di storia dentro Breakout, però lo è perché Breakout in quegli anni era il videogioco più di successo e più diffuso al mondo dopo il Pong, ok? Era un videogioco molto semplice, muro di mattoni, basetta sotto che si muoveva, palline, tu dovevi distruggere il muro di mattoni. Come ho detto, moltissimi giovani di adesso lo riconoscono come Arkanoid. Ma neanche quello ormai. Vabbè, però diciamo molti di più se lo ricordano di giovani come Arkanoid che come Breakout. L'ispirazione è quella, quindi Tomohiro dice: cacchio, quello è un gioco di molto successo, voglio fare qualcosa di simile, no? Quindi qualcosa che distrugge un muro, però voglio evolverlo, voglio renderlo più complesso, qualcosa di meglio rispetto a una semplice grafica della pallina quadrata col muro, un muro molto semplice. E all'inizio inizia a progettare un videogioco dove al posto del muro c'è una serie di aeroplani, carri armati, eccetera, che si muovono, però lì si scontra con le problematiche tecniche proprio di realizzazione. Allora, considerate, come ho detto, che è la prima volta che lui usa il microprocessore. Utilizza il microprocessore, quindi la programmazione, però comunque progetta l'elettronica, soprattutto progetta l'elettronica che crea l'immagine raster a video del videogioco, ok? E la progetta senza un VDP. Voi sapete cos'è un VDP? Video display processor. Bravissimo, è un microprocessore che si occupa esclusivamente di disegnare la grafica, sì. Ok? I VDP poi la scheda grafica, insomma. Sì, il cuore della scheda grafica, diciamo, quello che poi negli anni successivi faranno la fortuna o la sfortuna di computer, videogiochi, console, eccetera, eccetera. In realtà il VDP esisteva già, per esempio, nell'Atari 2600 uscito l'anno prima, c'era il famoso Stella, il VDP progettato da Jay Miner, che è il papà dei chipset di Amiga, quindi lui progettò quello che entrò nell'Atari 2600, poi i VDP degli Atari con i primi personal di Atari e poi il famoso Copper Blitter Paula di Amiga, eccetera eccetera. Comunque quindi il VDP esisteva già, però in quegli anni era qualcosa di ancora, cioè per fare un VDP ci volevano tanti soldi, un progetto complesso, ci voleva tante cose, non c'erano VDP disponibili fino all'anno dopo, nel 79, quando poi la Texas produsse il primo di largo uso e di larga diffusione. Lui quindi progettò l'elettronica che generava l'immagine a video in raster pilotata dal microprocessore stesso, cioè dall'Intel 8080. Quindi l'8080 faceva tutto, generava il videogioco, ma generava anche la grafica del videogioco. Quindi adesso non entro nel tecnicismo, però potrete immaginare che un processore, oltre a dover gestire le regole del videogioco, deve anche occuparsi proprio di pilotare il cannone elettronico del CRT, del tubo catodico, in modo da disegnare la grafica che noi vediamo a schermo, ok? Tutta sta roba, quindi l'8080, tutto con l'8080 girava anche a 1 MHz, quindi stiamo parlando di qualcosa veramente lento per l'epoca. Quindi cosa succede? Lui non riesce a disegnare gli aeroplani, soprattutto con un movimento fluido come gli sarebbe piaciuto, quindi decide di cambiare il tema del videogioco. Si rivolge a un tema spaziale, un po' perché era in quegli anni, soprattutto si dice, era l'anno di... Sì, e poi esce Star Wars e da lì, quindi poi lo spazio andava di moda. Si ispira nel disegno dei suoi personaggi a un grandissimo classico che è La Guerra dei Mondi, ai tripodi, che era un po' nell'immaginario collettivo l'alieno tipo, il marziano, eccetera. Era il tripode, era la Guerra dei Mondi, quindi era... Grande film l'originale. Esatto, sì. Grandissimo film, era fisso nell'immaginario collettivo come l'alieno è fatto così, ok? E quindi si ispira a quella tipologia di alieni per disegnarli e inizia quindi a progettare questo gioco, come ho detto, ispirato a Breakout. Quindi c'è un muro da distruggere, il muro era l'insieme degli alieni, delle navicelle, degli alieni, non delle navicelle, degli alieni che si muovevano, certo, verso la Terra. Si accorge di un'altra cosa, che siccome è il microprocessore che disegna tutto, se lui disegnava 10 alieni andava a una velocità, se ne disegnava 9 andava più veloce, se ne disegnava 8 andava ancora più veloce. E questa cosa qui gli dà l'idea di lasciarla così com'era, e quindi la velocità del movimento degli alieni aumentava al diminuire del numero degli alieni sullo schermo. Quello che era un problema tecnico diventa un elemento di design del videogioco. E quindi mette tutta la sua esperienza che ha raggiunto fino a quel momento del disegno di questo gioco, e esce effettivamente qualcosa che da un certo punto di vista è un capolavoro. Sono quelle cose che quando ti escono dici: una cosa in più era brutto, una cosa in meno era brutto, così è perfetto. È perfetto per tutto, anche l'audio, quello che abbiamo detto prima, per dire, anche lì nell'audio utilizza uno dei miei primi microprocessori della Texas che gli permetteva di fare qualche suono, poi altri suoni, per esempio come l'esplosione più particolari, li progetta proprio elettronicamente con un insieme di TTL. Quindi, secondo me, come dicevo prima, secondo me veramente la cosa più di successo del videogioco è proprio il ritmo che scandisce il movimento suono trum. Ecco, alieni, questo suono, no? Questo, esatto, suono qua. Cioè, quello secondo me è proprio il suono che tu dici a chilometri di distanza, ad anni di distanza, questo è Space Invaders. Sì, e ma oltretutto, è un videogioco. Esatto, quell'idea di quel suono, di quel suono lì, gli arriva da un film che ha successo in quegli anni. Vediamo se indovinate qual è. Non mi chiedi troppo. Forse incontri avvicinati al terzo tipo. No, se no. Faccio questo suono, vediamo se lo indovinate. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Squalo. Zoom. Bravo. Lo squalo, The Shark. Quindi questo suono che crea suspense, che crea la cosa, lo altro, mette. Altro elemento di grande successo di un film che altrimenti varrebbe la metà. Esattamente. Ci mette questo suono, cioè trum, trum, trum, trum, che è anche un suono che ricorda il battito cardiaco, quindi qualcosa che, insomma, come ho detto, qualcosa messo lì che se lo facevi in un altro modo non aveva quell'effetto. Esatto, è tutto, esatto, un insieme che crea, è vero, comunque, che crea il gioco. Ma poi ho letto, non vorrei anticipare altri contenuti di no, Carlo, vai, tranquillo. Ma ho letto un articolo su Gamma Sutra su Space Invaders che metteva in luce un aspetto molto interessante, cioè che il designer Nishikado aveva molto a cuore questo elemento narrativo del videogioco. Se ma hai fatto l'esempio di Breakout, giustamente. Breakout, esatto, non aveva una narrativa, perché era una pallina con un mattoncino e altri mattoncini, non c'era niente. Invece Space Invaders innanzitutto crea un elemento di tensione dettato dalla musica, da questa musicalità, suono, diciamo, degli suono, effetti, esatto, sonori, sì, sì. Poi c'erano questi alieni che non erano fermi, non erano statici, ma avanzavano verso di noi, ed era chiaramente una situazione in cui c'era un attacco alieno, cioè anche se, certo, nessuno ha mai letto la storia di Space Invaders, noi sapevamo che c'era un attacco alieno in qualche posto e noi eravamo i difensori del pianeta, di fatto. Certo, c'è un proto-racconto. C'è, diciamo, un proto-racconto che secondo me però, pensandoci, esisteva forse già in Gunfight. Sì, sì, infatti. Quindi, era quello che ti stavo dicendo. In realtà, esatto, questo è un po' di dietrologia, cioè una ricostruzione. E quello che Tomohiro sicuramente aveva era quello di creare un qualcosa che avesse un'entità, ma ce l'aveva innata. Non è che lui pensava di, esatto, creare una, esatto, storia, sì, cioè sì, lui, sì, voleva fare un qualcosa. Lui diceva di più, lui ha detto nelle sue interviste: vabbè, voleva fare già, qualcosa già di più. Contestualizzando un videogioco, già gli, esatto, dai un elemento. Lui diceva: io volevo farlo più complesso, diceva, cioè, esatto, più ricco, ecco, più ricco come traduzione. Quindi farlo più ricco era anche la contestualizzazione, cioè già Gunfight per esempio era una storia, i pistoleri due nel Far West, il cactus, esatto, cioè lo identificavi subito Western Gun, sì, che sì, era la contestualizzazione, dava un elemento narrativo che poi aiutava il videogioco a raccontarsi, il videogiocatore a raccontarsi ancora meglio la, sì, la propria storia, no? Quindi, che poi questa cosa qua è tipica, è uno degli elementi tipici che hanno introdotto i giapponesi nel videogioco rispetto agli ideatori del videogioco che sono gli americani. Gli americani, sì, che, sì, sono gli ideatori del videogioco sono sempre stati, all'inizio soprattutto su una non narrativa, cioè sul gioco stesso, come gioco, inteso come gioco. Io sto, certo, giocando a un gioco. Vabbè, ma gli americani sono sempre spesso stati di spingi i bottoni, quindi adesso non esagerare. Quando il videogioco l'hanno inventato loro, poi c'è tutta la storia dell'invenzione, del, beh, videogioco. Però inventavano il videogioco che dovevi spingere i bottoni, quindi. No, beh, vabbè, comunque, allora no, però, Space War l'hanno inventato loro con la narrativa, no, vabbè, della, ma, guerra spaziale, è chiaro che, negli anni è 60. È chiaro che il mio è, quindi, cioè, è qualcosa che è arrivato dopo. Però sicuramente i giapponesi sono quelli che l'hanno reso nel videogioco arcade, nel videogioco popolare. L'hanno reso con Tomohiro sicuramente, come hai detto, anche se lo vedo un po' come dietrologia questa creazione di narrativa, perché era qualcosa di che lui faceva quasi senza accorgersene, sì, sì, istintiva. Istintiva, perché come ho detto, Tomohiro e gli altri fino a quel momento erano più ingegneri, più tecnici, ma la vediamo chiaramente e definitivamente con Donkey Kong, dove invece, ah, certo, l'introduzione proprio del game design, cioè di quello che progetta il videogioco ma non lo programma, introduce per la prima volta un'introduzione al videogioco, no? Il, beh, fatto, sì, ma lì c'è proprio la storia, però, lì c'è proprio la storia, ed è la prima volta che appare la storia, ma lì stiamo parlando di Donkey Kong dell'82, fare qualche altra puntata più avanti. però io invito gli ascoltatori che magari sono un po' più curiosi a andarsi a ripetere magari tramite YouTube, a guardarsi, soprattutto il primo livello di Breakout, e guardarsi poi Space Invaders, perché in effetti la similitudine sono indiscutibilmente tante. Che cosa ha di più, chiaramente Space Invaders, il fatto che comunque lì righe e colonne in realtà si muovono, e non solo, sono anche più minacciose perché avanzano, no? Quindi, certo, invece Breakout era più statico, no? Da questo punto, sì, di vista, sì, che poi in realtà c'erano state delle versioni, la velocità della pallina, no? Cioè, ci sono state delle versioni evolute di Breakout, Super Breakout, dove c'era il muro che scendeva, il muro, vabbè, che, sì, quindi, sì, in realtà, sì, c'erano, sì, state quelle idee già aggiunte in seguito. Però comunque ritorniamo a Space Invaders, come ho detto, se no parliamo poi anche di tutti, faremo una spuntata apposta su Breakout, c'è tanto, sì, da raccontare, sì, anche lì. Quindi abbiamo questo videogioco che esplode dal punto di vista del successo, prima in Giappone, dove esce, dove addirittura è nata la famosa leggenda della crisi delle monetine, perché tutti volevano giocare a Space, cioè il videogioco che in quel momento stava crescendo, ce n'erano tanti diversi eccetera, quasi tutti spariscono per Space Invaders, ma proprio spariscono perché Space Invaders prende il posto degli altri videogiochi. È anche per questo che adesso spesso poco ci ricordiamo di anche tanti videogiochi famosi che ci furono prima di Space Invaders, perché Space Invaders li azzera, cioè Space Invaders diventa una specie di mangiatutto nelle sale giochi si riempiono di Space, ci sono 10 cabinati di Space Invaders, ok? Mentre prima c'erano 10 videogiochi diversi, perché tutti vogliono giocare a Space Invaders. L'altra cosa che è importante da dire, e è una cosa che non molti sanno, quello che ho detto prima, cioè il fatto che Space Invaders, come tutti i videogiochi, viene inventato da Taito in Giappone, vengono venduti i diritti a produttori in giro per il mondo. Negli Stati Uniti, ok, Midway prende i diritti di Space Invaders perché era l'azienda che aveva aveva i diritti precedenti di degli altri giochi di Taito, eccetera, quindi prende i diritti anche di Space Invaders. C'era già un rapporto commerciale. C'era già un rapporto commerciale. In Italia, in quegli anni, e questa è una cosa che sanno in pochi, non so se Santilio sa questa storia, cosa succedeva in Italia in quegli anni, negli anni nel 70, mondo degli arcade, nel mondo del videogioco e degli arcade in generale. Ricordo, erano gli anni, ci si drogava, sì, certo, nei suoi giochi. Erano gli anni della Zaccaria, credo. No, la Zaccaria arriva dopo. Arriva dopo. In realtà, sì, in realtà in quegli anni l'azienda di maggior produzione italiana del videogioco è quella che ha iniziato anche per prima in assoluto. Una cosa che non sanno in molti, in Italia il mercato dei videogiochi era già molto importante, come lo era in tutto il resto del mondo. Non era qualcosa che da noi è arrivato 10 anni dopo, 20 tardi anni dopo. È male, dici. No, è arrivato giusto. È arrivato giusto. C'era un problema che era quello dei diritti, che poi di quello ne parleremo vabbè, dopo. Quello è un problema tipico in Italia, ma quello è stato una nostra, diciamo, causa di morte dell'inizio del mercato del videogioco. Comunque, in quegli anni, i primissimi anni della nascita del videogioco, c'era un'azienda di Montemarciano che si chiamava Model Racing. Questa azienda era un'azienda molto grande e conosciuta nell'ambito di quello che erano i giochi elettromeccanici nelle sale giochi, quindi era già un'azienda strutturata e molto importante nell'ambito dei giochi elettromeccanici. I videogiochi in quegli anni prendono il posto degli elettromeccanici e la Model Racing è una delle prime a migrare dall'elettromeccanico all'elettronico, tanto che addirittura nel 1975 la Model Racing è la prima azienda in Italia a creare un videogioco originale che si chiamava UFO ed era una specie di flipper fatto a videogioco. Ok, infatti anche il cabinato somigliava a un mini flipper con il tubo catodico messo quasi in orizzontale. Se lo andate a cercare, UFO della Model Racing, trovate sì, l'immagine. Stavo cercando, cioè, infatti. Trovate sì, anche sì, un sì. video su YouTube dove c'è mio amico Marco che l'ha restaurato. Sembra un flipper. Davvero. Ok. Ed è un videogioco originale progettato dalla Model Racing che oltretutto viene anche venduto a livello internazionale, viene distribuito anche negli Stati Uniti, viene presentato a una fiera in Inghilterra. Insomma, la Model Racing si fa un nome in questo settore. Si fa un nome e questo la introduce negli anni successivi, nel 76 e nel 77, ad avere degli ottimi contatti con la Taito in Giappone e diventa l'importatore ufficiale dei videogiochi Taito in Italia e per il mercato europeo, tanto che praticamente fa quello che faceva la Midway negli Stati Uniti. Tanto che i programmatori, i progettisti, gli elettronici della Model Racing vanno in Giappone a incontrare i progettisti e i programmatori della Taito e importano proprio Space Invaders. Quindi in Italia Space Invaders non arriva dagli Stati Uniti ma arriva direttamente dal Giappone. Ok, e arriva direttamente nel Giappone, viene prodotto e commercializzato con diritti in questo caso, perché siamo nei primi anni, quindi non era ancora chiaro che si potesse copiare tutto, cosa che invece succederà da lì a qualche anno successivo, ma è ancora una storia che sta iniziando e quindi è ancora regolare tra virgolette. La cosa particolare è che io ho conosciuto e intervistato i due progettisti dell'epoca, perché come Retrocampus stiamo creando un documentario su questo, ci vorrà ancora un po' di tempo perché come tutte le produzioni autoprodotte si va a investimenti propri, quindi non si va velocissimi, diciamo. Però li abbiamo intervistati, abbiamo interviste di Melilli, che era uno dei progettisti della Modern Racing. Come ho detto prima, anche loro erano elettronici, progettisti elettronici, e avevano per esempio creato un videogioco sempre della Taito, importato nel 1976, di corse di macchine in semi tridimensionale, pseudo 3D, ok? Non Road Race, che era quello della Sega, ma quello precedente. Comunque in quegli anni i videogiochi di macchine, nel 77 la fanno da prodotto, ne uscirono tantissimi, tra Night Driver, Death Race della Exidy, Road Race della Sega, ce ne furono veramente tanti. Ma la cosa che ci interessa è che soprattutto presero i diritti di Space Invaders, e quindi la Modern Racing fece la PCB di Space Invaders per il mercato italiano e per tutto il mercato europeo, perché tutti gli Space Invaders che trovate in Europa furono prodotti dalla Modern Racing di Montemarciano. Ma la cosa particolare che ci hanno raccontato questi due programmatori e progettisti fu questa: che nel riprogettare la scheda di Space Invaders, loro presero il codice originale, il processore 8080, ricrearono la PCB per la produzione italiana, quindi con componentistica che si poteva trovare qui, quindi la piastra madre era diversa rispetto a quella originale giapponese, che era diversa a quella ovviamente americana. Ma soprattutto quando fecero il test del videogioco, cosa succede in quegli anni? Qualsiasi videogioco nuovo che arrivava, la Model Racing stava a Montemarciano, vicino alla zona delle sale giochi della costiera, di Riccione, Rimini, eccetera, uh-huh. E li testavano per primi in quelle sale giochi, che erano un po' dei luoghi dove si poteva facilmente, esatto, era il centro italiano del videogioco in quegli anni in Romagna. E testarono quindi questo Space Invaders, e i gestori di sala giochi dissero: bello, ma la partita dura troppo, cioè è troppo facile. Quindi cosa fecero? Nel caso specifico Melilli mise mano al codice e velocizzò Space Invaders. Quindi lo Space Invaders che abbiamo giocato noi in quegli anni in Italia era più difficile del corrispettivo originale giapponese e americano. Aveva il codice modificato per andare più veloce, per far durare meno la partita. La versione hardcore di era Space la versione Invaders. Hardcore, cioè noi abbiamo giocato e questa non lo sa praticamente nessuno, mai no. Così è stato poi anche documentato nel MAME, quando poi sono stati dompati i codici eccetera del videogioco. E questo Carlo, nonostante il processore fosse gli stessi megahertz, riuscirono a velocizzarlo? Sì, perché certo, perché l'elettronica era comunque rifatta, e loro semplicemente probabilmente aumentarono lo step di pixel di movimento, quindi era un qualcosa che a livello video in quegli anni era in fretta. Esatto, impercettibile, ma in pratica resero un po' più difficile, un po' più veloce la partita, quindi il gettone durava di meno, perché una delle cose che interessava ai gestori delle sale giochi era quello, sì, lo scopo ma lo scopo era metterci i gettoni dentro, alla faccia del game design, della narrativa, alla faccia di tutto. Pensate che uno dei problemi che ebbe all'inizio Donkey Kong, che abbiamo accennato prima, cioè l'introduzione, la gente all'inizio i gestori non lo volevano mettere perché quell'introduzione faceva perdere tempo e quindi diceva: sì, ma qua metti il gettone e poi sta qua a vedere la scenetta, non va bene. Poi dopo il gioco ebbe talmente tanto successo che pazienza, pazienza, lo faceva, incassava comunque tanto. E Space Invaders in realtà, secondo questi tester italiani, era troppo facile e quindi bisognava complicarlo, e quindi da noi e in tutta Europa poi, perché la versione Modern Racing fu distribuita nel resto d'Europa, e Un'altra cosa, sempre un cioè, quindi stupida. Questi all'inizio hanno fatto i veri soldi comunque, perché cioè, se c'è addirittura una sorta di pseudo esclusiva su un prodotto da distribuire in tutta Europa. Certo, no no, infatti era veramente grossa la Model Racing. La Model Racing fino al 1984 è stata una grandissima azienda italiana che dava da lavorare da centinaia e centinaia di persone. Poi il problema italiano fu la famosa mancanza di legge sul diritto d'autore ed editore del videogioco, sì, che creava un sacco di disastri, ma di questo magari ne parleremo in una puntata apposita, perché esatto, ne abbiamo già fatto diverse volte cenno nelle puntate speciali, sì, che abbiamo, sì, fatto, sì, sull'editoria, sì, quindi tra l'altro, sì, tra le più belle puntate che abbiamo realizzato, quindi il problema è che in Italia, come ho detto, il mercato del videogioco iniziò parimenti a tutte le altre nazioni evolute. Voi considerate che l'Italia in quegli anni, negli anni 70, non eravamo una nazione secondaria, siamo sempre stati una delle nazioni con l'economia più avanzata. Avevamo, per esempio, in Europa eravamo tra le nazioni più avanzate, sicuramente più avanzati, per dire, della Spagna, per tanti anni come economia. Eppure questo problema della mancanza legislativa sul diritto di autore ed editore bloccò completamente la produzione di videogiochi nel nostro paese, cioè creò una non nascita di un segmento di mercato che fu sostituito da un segmento di mercato regolare di diciamo duplicatori di videogiochi ufficiali, cioè aziende vere e proprie che potevano liberamente copiare videogiochi. No, già se tu pensi a, cioè, venendo in tempi più moderni, a Play Game, Special Play Game, Program, Special Program, sì, esattamente, comunque usciva in edicola in quegli anni, esatto, gente che lavorava per calcare i giochi, fondamentalmente, assolutamente, sì, aziende, ma non solo nel mercato del videogioco domestico, ma anche nel mercato del videogioco arcade, produssero proprio una serie di società che potevano liberamente produrre giochi copiati. Comunque il discorso della Model Racing, come ho detto, la Model Racing era importantissima e produsse Space Invaders per tutta l'Europa. Ritornando proprio invece, parlando di Space Invaders 6, quindi a livello generale, un'altra cosa divertente da dire riguardo alla storia di Space Invaders, che non ho ancora detto, è la famosa immagine che accompagna tutti i cabinati nel mondo di Space Invaders. Ve la ricordate l'immagine? Sì, l'alieno? L'alieno gigante, quella, sì, specie, sì, di mostro. Molti degli anni si sono chiesti il perché di questo disegno, perché in effetti non è che richiami in maniera particolare, non è così coerente col gioco, non è coerente, sono delle specie di mostri giganti che si muovono proprio con le gambe, le mani. Questo perché in realtà chi disegnò l'artwork non vide il videogioco, ma gli venne dato il nome che doveva avere Space Invader inizialmente, che era Space Monster, che è un mostro spaziale, e allora disegnò questa specie di mostro gigante spaziale. Poi rimase, all'epoca non è che stavano lì a vedere che la grafica fosse coerente con, anche perché prima di lanciare un videogioco nessuno sapeva se questo avrebbe avuto successo o meno. Al lancio Space Invaders era uno dei tantissimi videogiochi che venivano lanciati in quel famoso 1978. Poi noi adesso lo ricordiamo come il videogioco del 1978 e il videogioco di tutti gli anni 70, se vuoi, quello che ha proprio consacrato a livello mondiale il successo del videogioco. Ok, pensa che Space Invaders sta al videogioco come Spock sta a Star Trek, cioè proprio. Non so se vi è mai capitato il fatto che comunque potrebbe. Per chi non conosce. No, mi sono dimenticato una cosa, dopo l'aggiungo, vai. No, dicevo, cioè, nel senso, non so se vi è mai capitato di incontrare o di parlare persone che magari di Star Trek o roba del genere magari non ne capiscono niente, non gli interessa, però comunque se tu dici ma Star Trek qual è, quello con l'orecchio a punta, cioè come se quello con l'orecchio a punta forse il personaggio che si chiama Star Trek, no? In realtà sì, Spock è l'icona di Star Trek, no? Cioè nel senso proprio è l'elemento di costume fondamentale della serie classica di Star Trek, no? Quindi molto più di Kirk, poi Kirk diventa importante per chi è appassionato, no? Però in realtà Star Trek. L'icona, Spock era l'icona, semplicemente come l'orecchio a punta e l'astronave di Space Invaders, il mostro di Space Invaders è l'icona. Space Invaders è l'icona del videogioco, insomma. Forse un po', diciamo, incalzato negli ultimi decenni da Mario, ma secondo me rimane ancora oggi, perché io comunque ogni volta che vedo una fiera, una mostra, un'esposizione, robe genere, c'è sempre il richiamo al pupazzo, allo sprite della Taito, capito? Che sì, ma poi pensa che forza aveva quello sprite che negli anni non è stato spinto da marketing differentemente da Mario, nonostante tutto questo è rimasto come simbolo, come icona del videogioco. Certo, vuol dire che da solo per tutti gli elementi che ha detto Carlo prima, quindi magari anche un essere un capolavoro voluto o non voluto, a prescindere, insomma, da questo, poi alla fine di per sé lo è diventato, basta. Cioè, sì, devo dire che negli ultimi anni molto del suo successo moderno lo si deve a un artista francese, Invaders, non so se sapete questa la storia. Un street artist francese chiamato Invaders, all'inizio degli anni 2000 ha iniziato a fare una serie di street art ispirata a Space Invaders, dove appunto lui si chiamava Invaders perché iniziò a disegnare con mosaici l'alieno di Space Invaders dappertutto nelle città, prima riempiendo Parigi, poi andando in giro per le città del mondo, e a livello di arte contemporanea è famosissimo, e è stato un po' quello che negli ultimi anni ha diciamo rivitalizzato il mito dell'alieno di Invaders, dello Space Invaders. Ho cercato delle opere su internet, sono bellissime. Esatto, Invaders, lui si chiama proprio Invaders come nome. Allora io chiedo gentilmente a Gianluca, dato che sta raccogliendo tutti questi link, se magari poi dopo ci scappa fuori un file TXT, così dopo alcune cose le mettiamo nelle note dell'episodio. Però volevo aggiungere anche una cosa, così una stupidaggine assolutamente, però se riusciamo a ritrovarlo, lo diciamo agli ascoltatori, metteremo nelle note dell'episodio un link per scaricare il fumetto che fece Marco Gualdi quando parlammo di Space Invaders nella prima edizione di archeologia videoludica. Mi ricordo che lui fece proprio questo mini fumetto che era una cosa divertente, e ovviamente era anche collegato al kit Sen Google di quell'episodio, dove lui raccontò la famosa storia dello sparatore cieco, cioè del fatto che lui quando giocava e ne abbiamo parlato anche nella puntata di videoludica della scorsa settimana, quando parlavamo con Carlo del retro gaming, e c'è questo episodio che lui dice: io ero piccolo, non c'avevo i soldi per giocare, però mentre che giocava mio cugino, io non arrivavo neanche anche lo schermo, non vedevo quello che facevo, però spingevo il pulsante del fuoco e così perché così lo facevano contento, e lui da quella cosa lì è nata, insomma, la cosa dello sparatore cieco che insomma, vabbè, poi siamo portati. E quindi se troviamo vi mettiamo il fumetto, che è comunque, sai, quegli elementi di folklore che hanno sempre rappresentato i PN, Runtime e compagnia bella, insomma, che ecco, volevo dire solo una cosa che mi sono dimenticato, importantissima. Vai. Da dire che Space Invaders è importante non solo perché in quel 1978 sdoganò, diciamo, definitivamente il divertimento del videogioco, il concetto del videogioco nel mondo, ma è importante perché lo sdoganò anche a livello casalingo, perché l'Atari VCS, la console uscita l'anno precedente dell'Atari, in realtà non stava vendendo tantissimo. Okay. Era un qualcosa, sì, che vendicchiava, ma in realtà vendevano molto di più ancora i vari Pong, console tipo Pong nelle case del mondo. In realtà, quando uscì Space Invaders, Atari si prese i diritti per la produzione ufficiale di Space Invaders versione domestica. Questo fu l'arma vincente, perché innanzitutto, per prima cosa, produsse un capolavoro domestico, cioè Space Invader sull'Atari VCS 2600 è veramente un capolavoro, perché stiamo parlando del 1978 e 79, quando esce la cartuccia dell'Atari, esce un qualcosa da casa che era quasi più bello della versione arcade. era a colori. Era colori, aveva molti livelli, aveva una grafica bellissima. Gli alieni erano diversi rispetto alla versione arcade, erano disegnati, diciamo, con i limiti del VCS, ma erano veramente belli. Ed erano per diciamo quello che si aspettava nelle versioni domestiche dell'epoca, qualcosa veramente incredibile. Era forse un arcade perfect, tra virgolette, nel senso che veramente posso azzardare a dire che secondo me era l'unico gioco della Atari 2006 che figurava meglio rispetto all'arcade. Che no, non era che l'unico c'era. Perché ti stai dimenticando i precedenti. Allora, una cosa da dire: io ti parlo di quelli che c'avevo io, perché tu però tu fai un'esperienza successiva, per esempio Night Driver, che era uscito l'anno precedente, era bello, uguale a quello del bar. La versione di Video Olympics, che era il Pong, era molto più bello. Cioè, in realtà, nel 77 aveva, per non parlare del Bowling, di tanti giochi, Spaceship, tantissimi. Considera che in quegli anni l'arcade era ancora, era evoluto, ma non era così evoluto come se lo sarebbe diventato da lì a pochi anni. È vero che poi nel giro di 2-3 anni cambiò tutto, quindi poi avevamo dei giochi arcade che erano molto più belli di quelli da casa. Però lì stiamo parlando ancora del 77, abbiamo confrontato 78, l'altra volta Popeye con quello del VCS, ma lì stiamo parlando di successivo. Infatti poi lì escono anche le altre console, c'è ColecoVision, c'è tutta un'evoluzione molto veloce, troppo veloce, e si fa fatica a contestualizzare. Tu devi sempre ricordarti che tu devi ritornare con la mente, se stai parlando del 77 devi ritornare nel 77, nel 78. Tu non puoi pensare nel 78 di confrontare quello che è uscito nel 79 o nell'80, perché è cambiato tutto. Tu pretendi che io abbia la capacità di ricordare contestualmente il periodo storico? Sì, più o meno, ma non io ricordo che la cartuccia che c'avevo del Space Invaders l'ho bruciata praticamente, proprio perché comunque era il gioco che mi faceva ero orgoglioso di avere l'Atari 2006 per aver il gioco. Tutti erano orgogliosi e tutti volevano l'Atari 2006 per Space Invaders. Space Invaders fu la killer application che fece stravendere l'Atari 2600, l'Atari VCS. L'Atari VCS diventò la console più venduta al mondo grazie a Space Invaders. Perché ricordiamo al di là di tutto ricordiamo che molti dei cabinati degli arcade, se non tutti ma molti in quel periodo, se non erro, erano in bianco e nero, e l'unico elemento a colori che c'aveva erano le strisce colorate sui vetri, cioè sì, le bande. In realtà Space Invader uscì anche a colori poi l'anno successivo, però fu molto meno diffuso di quello in bianco e nero, per una questione semplicemente di costi, anche perché poi il gioco, però io comunque, il colore proprio non è perché che gli desse... ho una memoria proprio mia personale, no? E mi ricordo che a Cattolica ci avrò avuto 6 anni 7 anni, quindi sarà stato 78, 79, 80 ti è. Comunque mi ricordo questa immagine, insomma, del primi Space Invaders che ho visto, che alla fine dicevo che bello, poi dopo guardavo, mi inclinavo, capito, la testa per vedere la differenza, e vedevo che praticamente poi questi colori si sfasavano, dico, ma c'è qualcosa di strano, perché io poi sono la delusione di un bambino. No, più che altro la mia era sempre stata una curiosità, no? Cioè io quando vedevo questi artifici li andavo a studiarmeli, ma questo, voi dico una cosa, non c'entra niente, e poi ripartiamo perché sennò prendiamo. Voi non sapete, io ero un appassionato di pellicola quando ero ragazzino, cioè mio padre aveva la cinepresa, aveva il proiettore, avevamo la moviola a casa, quindi io ti immagina che mi mettevo lì e io mi domandavo, cioè quando c'è il fotogramma, perché qui stavamo parlando di quando ero veramente piccolo e probabilmente ancora non ero in grado fare dei concetti così astratti come il cambio della sequenza di un'inquadratura, no? E quindi quando dicevo c'è l'ultimo fotogramma di una scena e il fotogramma successivo c'era una scena diversa, e in mezzo che ci sta? Cioè, che è successo in mezzo tra quel fotogramma e quell'altro? Voi penserete, questo è matto, no? Però non lo dovete mettere adesso questo discorso, lo dovete mettere in un contesto, un ragazzino di 4-5 anni che sta manipolando delle pellicole, che certo. Considerate il 60% di chi ci ascolta non sa neanche di che stiamo a parlare, insomma. Esatto. Comunque quello che volevo specificare nel discorso, quando, perché io insisto sempre 77, pensate al 77 78, perché tantissima critica videoludica o revisionismo storico eccetera, tante cose che leggo spesso sono basate sulla confusione degli anni, di quegli anni, la confusione delle uscite, di cosa è successo prima e cosa è successo dopo, perché è ovvio che se tu non contestualizzi nella maniera specifica rischi di disastrare tutto, come appunto certo. Il fatto di dire: ma come mai la tale di VCS vendete così tanto, che era una schifezza e i videogiochi da casa erano bruttissimi rispetto agli altri? Non era così nei primissimi anni, negli anni del grande successo, non era così. Il problema è che se tu lo confronti con quello che è successo dopo, per te invece era sempre stato così, capisci? Quindi bisogna stare molto attenti per riuscire poi a capire effettivamente perché una cosa ha avuto successo e perché un'altra cosa magari non l'ha avuto, come ha fatto. Ma io negli anni in cui ho avuto l'Atari VCS ero stracontento, fino a che qualche tempo dopo non ho visto l'Intellivision. Beh, certo, cioè, come tutti arrivo all'Intellivision, cioè, nel senso, poi, io arrivo all'Intellivision e dico no, cioè no, che il Television, poi il ColecoVision, poi il Big 20, poi il Condor 64, esatto, via di lo sanno tutti. Comunque l'altra cosa da dire sullo Space Invader dell'Atari VCS è che era il primo videogioco sul VCS che portava a già quasi ai limiti, cioè portava a superare i limiti tecnici della progettazione dell'Atari, perché tecnicamente l'Atari è stato progettato per muovere due sprite. Ok, il player missile e l'object missile. Cioè il player object e il missile object, scusate, cioè quindi una cosa il che giocatore si muove e l'oggetto che andava che spara. Quando videro la prima volta, c'è un'intervista, un documentario che parla della storia di Atari, dove racconta la prima volta che i programmatori interni videro la realizzazione di Space Invader, alcuni dissero: ma come avete fatto a muovere tutti quegli alieni sullo schermo? In realtà tutti gli alieni dello schermo sono un grande uno sprite unico, uno spriteone, esatto, uno spriteone gigante ripetuto molte volte, che si muove in un blocco unico, perché non so se vi ricordate quando l'Atari deve muovere più oggetti, siccome aveva una limitazione, vi ricordate Pac-Man che invece era un obbrobrio, flickeravano tutti i fantasmini, perché erano quattro che si dovevano muovere in maniera indipendente e quindi doveva lampeggiavano, perché in pratica era lo stesso oggetto che viene cancellato da una parte, ridisegnato dall'altra, ricancellato e ridisegnato per fare i quattro oggetti, mentre Space Invader riesce a muovere. Penso che ci siamo diventati, cioè, già presa l'epilessia a giocare con epilettici. Esatto. Vabbè, comunque questa è un'altra cosa che era importante dire, perché Space Invader è anche importantissimo per la diffusione domestica delle console videogioco, in questo caso soprattutto dell'Atari 2006, del VCS. No, ma la cosa meravigliosa di tutto questo è che noi siamo in grado di scrivere un ordine di scaletta e andare come capita, insomma, diciamo così, perché in realtà abbiamo saltato argomenti e siamo, cioè, se io adesso guardo la scaletta dico di cosa abbiamo parlato, siamo a macchia di leopardo praticamente, insomma, però comunque, ma della Taito non vogliamo di niente, cioè ce ne freghiamo e ne parliamo casomai. Ma come detto, ho già accennato a questo, cioè al discorso dell'importanza dei giapponesi e delle software house giapponesi, software house, poi in realtà, come ho detto, parlare di software in quegli anni è sbagliato, perché era proprio progettazione elettronica e ideazione proprio anche del progetto elettronico del videogioco. Però come ho detto, è importantissimo per tanti elementi, primo tra tutti la famosa inizio di contestualizzazione di storia, quindi di uscita da quella che era l'idea di semplice gioco, ma di raccontare qualcos'altro rispetto a quello che era. Ma forse Santillo potrebbe dire qualcosa di più probabilmente a riguardo di questo. Non mi permetterei mai. ma lui potrebbe, ma non vuole in realtà. Non vuole. Importante. Ma Space Invaders oggi, cioè, perché io ho visto per esempio su Pac-Man sono state fatte tantissime riedizioni anche su mobile, ma non una riedizione nel senso la classica riproposizione di Pac-Man, magari delle reinterpretazioni. Ho visto, te ne so, Pac-Man 256, che è veramente diventato un gioco psichedelico praticamente, ma così come quello ne ho visti diversi altri. E Space Invaders, che tipo di trattamento ha ricevuto per esempio ai giorni d'oggi? Gianlu, se tu sai qualcosa magari. Ne sono usciti tantissimi, guarda, ti dico addirittura che è uscito nel 2017 un arcade Space Invaders, che dovrebbe essere addirittura con la light gun, cioè rendiamoci conto. Però in realtà poi, quando ci fu quell'epoca di ripescaggi vari dalle vecchie arcade, dai vecchi videogiochi degli anni 80 e in questo caso 70, si provarono a sperimentare nuove strade. Io ricordo di aver avuto uno Space Invaders Infinity Gin, che era uno sparatutto di fatto, un po' psichedelico ma molto più molto diverso comunque dalla formula originale. Sai, il discorso è che Space Invaders, magari possiamo anche parlarne più tardi, non ci parla adesso, ha avuto tanti di quegli imitatori, tanti di quei cloni, tanti di quei giochi che hanno preso la formula originale cambiandone alcuni dettagli, che è praticamente impossibile tenere traccia di tutte le ibridizzazioni, trasformazioni, ispirazioni. Quindi Come tutte le cose di grande successo, alla fine, sì, soprattutto nel mondo dei videogiochi. Sì. Se posso dire una cosa, c'è una piccola differenza. Prima tu hai citato Pac-Man, e rispetto a Pac-Man e a Mario, che hai citato ancora precedentemente, c'è però una differenza, secondo me, da fare, che infatti è quella che poi causò all'inizio, soprattutto, che Space Invaders è stato molto rivalutato anche successivamente, ma dopo il grandissimo successo dei primi anni, per un tot di anni fu quasi dimenticato. Ricordiamo quasi tutti gli anni 80, per esempio, anche i primi anni 90, perché Space Invader, pur avendo avuto questo successo planetario, non introduceva un personaggio, mentre Pac-Man del 1980 e Donkey Kong introduce, sì, è Pac-Man, introduce quello che è il personaggio del videogioco, certo. Cioè Pac-Man è il primo videogioco della storia che diventa entra nella cultura pop, quindi nella cultura, esce da quello che era il videogioco. Per esempio, quando uscì Space Invaders, pur col grandissimo successo che ebbe all'epoca, non è che fecero le tazze di Space Invaders, il cartone animato di Space Invaders, no, c'era solo il videogioco, sì, ebbe un grandissimo successo nel videogioco. Invece con Pac-Man nell'80 animati, sì. già subito nell'80 esce, diventa tazzine, dischi, diventa tutto, ok? No, io ricordo il cartone animato, tutto diventa tutto, cioè esce dal videogioco, dal medium del videogioco, e entra nella cultura popolare. E quindi anche diventa una canzone abbastanza famosa, poi assolutamente, c'era un 45 giri, esatto, di Pac-Man, c'era veramente, cioè era qualcosa che proprio usciva dall'ambito del videogioco. Questo invece a Space Invaders non avvenne. Noi adesso lo ricordiamo come icona, e come ho detto, grazie anche tanto al lavoro, certo, che ha fatto Invaders, l'artista che ho citato prima, ma in realtà non era un personaggio, e infatti tutti i seguiti e le successive imitazioni sono proprio imitazioni del gioco di Space Invaders. Cioè Space Invaders è bello quel gioco lì, è difficile ricordare una variante molto diversa del gioco di Space Invaders che ha avuto successo, al contrario invece sia di Pac-Man che di Mario, dove invece il personaggio è diventato personaggio, ha fatto videogiochi tra di loro diversissimi, completamente diversi e di grandissimo successo anche successivamente, certo, al videogioco, certo. Poi stesso. Sono entrati nel mondo del cinema, della televisione, di tutte le varie riproposizioni. In realtà Space Invaders, secondo me, anche negli anni 80 veniva comunque inserito all'interno di queste operazioni cross mediatiche varie, però veniva inserito come elemento di costume, come di background. Non so se vi ricordate, c'era una puntata di Lupin so se ve la ricordate, che loro giocano a Space Invaders, ma stanno tipo dentro una specie di meccanismo di trappola messi da non so chi, perché me la ricordo veramente vagamente, e ogni volta che loro sbagliano c'è praticamente uno degli alieni praticamente dei Space Invaders che gli viene tirato addosso, tipo una cosa del genere, perché loro stanno dentro questa specie di meccanismo dove c'è sì il cabinato dei Space Invaders, ma in realtà c'è anche una riproposizione meccanica del gioco, e quindi quando loro sbagliano praticamente parte sto stantuffo con l'alieno e gli va in faccia, e me la devo ricercare sta cosa, perché però perché sarebbe interessante. Non lo ricordo neanche io, no. Di questa non ho veramente memoria. Comunque, allora, però, se abbiamo un po' parlato delle caratteristiche tecniche, insomma, in generale, insomma, Carlo ci ha fatto una buona infrescata, roba del genere. Vorrei parlare, per esempio, di limiti, difetti o eventuali gabole inserite all'interno del gioco, perché capitava, magari, forse allora ancora, no, quando i giochi erano nella via di mezzo tra essere elettronici e di codice, insomma, non so se questa cosa poteva succedere, però insomma abbiamo visto che su tanti altri giochi c'erano magari dei limiti, degli errori, dei livelli oltre i quali non andava o cose del genere. Carlo, se ti ricordi qualche cosa del genere. Guarda, l'unica cosa che mi ricordo, che per certo perché l'ho sperimentata e l'ho vissuta all'epoca, era nella versione dell'Atari di Space Invaders, che aveva un bug che è diventato abbastanza famoso, che se tu accendevi e spegnevi velocemente il VCS, l'Atari 2600, a un certo punto Space Invaders poteva darti la possibilità di fare due spari contemporanei al posto di uno, perché sai che in Space Invaders una delle regole del gioco è che se tu sparavi, fin quando lo sparo non colpiva il mostro o qualcos'altro, tu non potevi risparare. Invece con l'Atari 2600 c'era questo trick che saltava fuori facendo tra virgolette impazzire la console, dove tu potevi sparare due volte, quindi sparavi e poi avevi già subito un altro sparo disponibile. E tu pensi che questa cosa era casuale o era voluta? Penso casuale, non fosse voluta. Io invece l'unico difetto sull'Atari 2006, te l'ho detto l'altra volta, che era lo stesso difetto che avevo su tutti i giochi, che ti spariva si dimezzava lo sprite, lo sprite. Dopo un po' lo sprite del Player One su tutti i giochi si dimezzava, è una cosa incredibile. Vabbè. Infatti, se tu giocavi, che ne so, a un gioco dove era sempre in single player, però prima giocava al player 1 con il suo joystick e poi giocava al player 2 con l'altro suo joystick, e il player 2 questo effetto non lo subiva, quindi era proprio una cosa, non so, è proprio assurda. Questo su Space Invaders ti facilità, perché avere l'astronave più stretta ti colpivano di meno gli alieni, in sì, teoria. Sì, su Space Invaders sì, ma per esempio su Breakout, sul muro, palla muro, no, quello era un po' complicato, insomma. Invece Gianluca, tu che magari se ti sei sguarducchiato in giro, è un po' simile alla domanda che ti ho fatto prima, però insomma magari conversioni più famose, varianti sul tema o cose sì, del genere, sì. Guarda, ce ne stanno, come ti dicevo anche prima, tantissimissime, anche perché soprattutto quando sono usciti gli home computer di successo, lì la cosa si è fatta particolarmente selvaggia, perché ovviamente tutti i giocatori, tutti gli utenti volevano il videogioco bello della sala giochi, quindi Space Invaders insieme magari anche a Breakout e qualcun altro erano proprio i titoli più imitati in assoluto. Io ricordo di aver giocato fino alla morte Avenger su Commodore 64, che c'era anche su Vic 20. Titoli di lancio del Vic 20 e del Commodore 64. Esatto, e fu tra il primo lotto di cartucce distribuite da Commodore praticamente, ed era molto bello, era molto bello. E rispetto a magari che la conversione, scusa? Avenger. Ma sicuro l'hai giocato tu, che hai avuto il Vic 20, perché era un super Space classico. Invaders del Vic 20 e del, esatto, i vari Space Invaders, per chi non aveva i diritti, avevano altri nomi, però venivano sempre riconosciuti come Space Invaders. Space Armada, per esempio, nelle television e tanti altri, insomma, erano è così. Addirittura via. Io che faccio un qualche ricerca sempre dei giochi usciti mese per mese, tra i primi titoli per Spectrum 2/3 erano dei cloni di Space Invaders. È vero, è vero. Era... Ma non solo, su Spectrum, se ti ricordi, nella cassetta inserita all'interno del della la cassetta da Horizon che ti davano quando compravi lo Spectrum aveva Breakout sopra. Sì, però non c'era vergogna. Era veramente sotto alla luce del sole che si faceva tutto questo. Ma sì, e, sì. E poi variazioni a versioni altre famose di Space Invaders ce ne sono state, ovviamente nessuna che è arrivata mai alla gloria dell'originale, però come accennava Carlo c'è stata una versione riveduta e corretta a colori di Space Invaders, ce n'è stato uno molto particolare prodotto da Midway, mai arrivato in Giappone, che si chiamava Space Invaders 2, che prevedeva un gioco in doppio. Sembra stranissimo per Space Invaders, ma di fatto era così. E c'era il cabinato a forma di tavolo, il famoso cocktail, che metteva due giocatori, uno da una parte e uno dall'altra, e dovevano sparare contemporaneamente a due formazioni di nemici. E poi ci fu un seguito diciamo, chiamato Return of the Invaders, e poi uno abbastanza famoso del 1991, Super Space Invaders, che magari su Amiga, su computer del tempo abbiamo avuto tramite conversioni varie. Poi, partita la moda dei remake e quant'altro, uscì un Space Invaders 2000 nel 1998, un altro nel 99 per Nintendo 64, eccetera eccetera eccetera. Veramente sto vedendo questo Avengers per VIC-20 che non avevo, ma questo poteva essere possibile solo su cartuccia, però, perché era su cartuccia. Perché dici possibile solo su cartuccia? No, era una domanda la mia, non è un'affermazione, perché comunque In realtà tutti i giochi di VIC-20 c'erano sia su cartuccia che su nastro. Io avevo sul nastro quell'Avenger per 64, anche se non so se sia mai uscito ufficialmente per Era su cartuccia. Però noto una cosa che non ricordavo, praticamente il VIC-20 c'ha una specie di color clash, va dall'altro, perché proiettile non lo ricordavi veramente? No, non lo ricordavo sta cosa. Il VIC-20 non ha sprite, non ha è sprite. Come lo Spectrum, sì, è solo modo caratteri, quindi ha per forza il color clash, caratteri ripetuti. Però straordinariamente il fatto che hanno comunque trovato il modo, cioè nel senso, comunque in teoria il carattere si sposta nella casella, no? Invece qui, se vai a vedere, i pupazzetti si spostano anche molto fluidamente, tutto sommato. Ma certo, ma anche sullo Spectrum muovi le cose fluidamente, ma se non hai gli sprite non è che non puoi muovere le cose fluidamente. Se non hai gli sprite li devi fare via software, cioè il movimento per spostarsi in maniera fluida lo devi fare shiftando i bit register dei caratteri, però non è che è vietato perché non hai gli sprite. Non stai calmo, non sto dicendo niente di genere. No, però la cosa bella è che la versione del VIC-20 imitava il vetro colorato dell'arcade, perché praticamente ogni riga c'ha un colore fondamentalmente, si vede. Questo tutto sommato gli dava un carisma sta cosa. Comunque volevo dire un'altra cosa, scusami, perché in realtà giustamente Santino ha ricordato proprio i seguiti ufficiali o semiufficiali, ma in realtà Space Invaders è famoso ed è importante perché ha dato il là a tutta una generazione di giochi alla Space Invaders, i fixed shooter. Fixed shooters è da dopo, da Galaxian a Galaga, a tutti i miliardi di giochi fatti in quel modo, cioè a Phoenix, questi sono i primi tre che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono veramente migliaia e tutti nascono da Space Invaders. Cioè, dopo Space Invaders ci furono tutte le variazioni, se vogliamo Galaga, Galaxian e Galaga sono quelli che poi hanno avuto più successo tra i giochi ispirati da Space Invaders, e furono quasi immediatamente successivi, perché Galaxian del 79 in realtà, addirittura tutto fu immediatamente, come ho detto prima, infatti. Lì bisogna molto concentrarsi sul addirittura al mese, perché tu rischi di sbagliare tutto se non consideri il mese in cui è uscito un determinato videogioco, perché veramente lì fu un'evoluzione dal 75 all'85 si inventò il mondo del videogioco. quindi vuol dire che ogni mese usciva qualcosa che non c'era prima, che rivoluzionava, che inseriva qualcosa che prima non c'era, che respirava da un'altra cosa, che migliorava. Veramente stiamo parlando di anni frenetici da quel punto di vista, e per chi come me si sforza di studiarli e metterli in ordine è veramente una fatica, perché devi stare veramente attento al mese, quasi al giorno di uscita di una determinata cosa, per capire cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Date che sono comunque io non mi vergogno a dire che secondo me la versione per VIC 20 rispetto a quelle 64 è più carismatica. Sai che sono d'accordo perfettamente, perché oltretutto la versione del VIC 20 è precedente a quella del Commodore 64, ma non solo, la versione del VIC 20, così come tutti i primi giochi usciti al lancio del VIC 20, tra cui c'era Avengers e c'era anche Pac-Man, una versione di Pac-Man bellissima per l'epoca, che da noi fu conosciuta come Jelly Monster, ma che in realtà al lancio del VIC 20, che ricordiamo, il VIC 20 fu lanciato in Giappone come VIC 1001, sì, era un progetto giapponese, fa parte di quei giochi, furono sviluppati da Satoru Iwata. Da Satoru Iwata, esattamente, furono sviluppati, bravissimo, il fondatore della HAL Laboratory, quindi fanno proprio parte della storia del videogioco, se vogliamo, cioè è qualcosa di veramente importante. E giusto per precisare, se qualcuno capolavori non dovesse conoscere il nome, è l'ex presidente Nintendo, ex purtroppo non è morto. Esatto, purtroppo deceduto giovane. Sì. Purtroppo dico che avrei avuto il piacere di intervistarlo, fargli un po' di domande, però personaggio bellissimo, tra l'altro, estremamente umano e simpatico. Lui è stato arrivata, lui imparò a programmare sul PET della Commodore, che in quegli anni era molto diffuso in Giappone, perché la Commodore, una cosa che molti non sanno, che in quegli anni aveva una filiale in Giappone, che era la Commodore Japan, che produceva e progettava i computer anche per conto della Commodore International, e il PET aveva proprio, Commodore aveva in Giappone una serie di negozi a marchio proprio, e aveva addirittura due centri di ricerca e sviluppo in Giappone in quegli anni, ed era molto diffuso come computer il PET all'inizio dell'era, diciamo, della prima triage, perché l'Apple II, al contrario, pur essendo molto desiderato perché era a colori, costava tantissimo, soprattutto in Giappone, che era di importazione americana, mentre il PET veniva prodotto dalla Commodore Japan lì in locale, quindi aveva anche un costo ridotto rispetto agli altri computer. Anche nel PET c'è una famosa versione di Space Invaders fatta a caratteri, oltretutto con i caratteri del PET, perché il PET addirittura non aveva neanche la grafica bitmap, aveva solo i caratteri grafici, quindi anche quello è spesso questo lo rende il più bel computer che io avrei mai voluto possedere, anche adesso in questo istante. Posso dire una cosa così molto banalmente, Gianluca? Può sembrare una stupidaggine, perché dice, è come se tu stai a parlare della Mona Lisa e ti dico, mi iscrivi a Mona Lisa, cioè, nel senso, chi è che non ha visto la Mona Lisa? Però magari così, forse così ingenuamente possiamo dire, ma vogliamo parlare un po' del gameplay, così chiudiamo un po' con questa cosa qui, perché noi diamo per scontato che Space Invaders, come è ovvio che sia, come si giocava, dopo tutto lo conoscono tutti, come si giocava Space Invaders? Sembra pleonastico, però è giusto dirlo, insomma. Allora, innanzitutto, differentemente da quello che si potrebbe pensare, Space Invaders non aveva un joystick, si giocava con due tasti sul cabinato più un altro per il fuoco, quindi un tasto ci faceva andare verso sinistra, un altro verso destra, un altro sparava, fondamentalmente. Lo schermo era composto così: c'era una navicella nella parte bassa che era la nostra, la potevamo spostare appunto a piacimento, ma solo sull'asse orizzontale, per questo genere di gioco poi si è chiamato da qui in avanti fixed shooter, perché da lì non ci si spostava. E poi o a destra, al di sopra, o a sinistra. Esatto, al di sopra della nostra navicella, immediatamente al di sopra, c'erano quattro archi che erano degli scudi dietro i quali potevamo nasconderci per ripararci dai colpi nemici, non per sempre, perché i colpi nemici distruggevano gradualmente questi nostri scudi. E qui pensa che secondo me c'è già stato il primo dibattito della storia dei videogiochi, secondo me, perché utili o non utili? inutili, chiaramente, rigorosamente inutili, perché cioè, molti pensavano che erano degli scudi, così come poi in effetti è, e altri pensavano che erano delle città da proteggere, no? Tipo che praticamente era qualcosa che non dovevano doveva essere distrutto. In realtà, al fine del gameplay, se vengono distrutti completamente gli scudi non succede niente, cioè nel senso, cioè non è quello il fine del gioco. Anzi, tant'è che tante volte uno li distruggeva di propria volontà, perché davano pure, sì, da una parte aiutavano, da una parte davano pure fastidio, insomma. Sì, perché non potevamo sparare neanche noi dei facevi scusa. Una delle tecniche era di fare il buco in mezzo, nascondere sotto e sparare dal buco in mezzo. Esatto. E poi ti spostavi di poco a destra o a sinistra. Sì, nella parte in realtà c'erano... vai, scusa. No, nella parte alta poi dello schermo, tra gli scudi e l'high score, il punteggio, c'erano i famosi alieni disposti in 5 file, c'erano 11 alieni per ogni fila. Ognuno di essi aveva un determinato valore in punti una volta abbattuto e saltuariamente, ma in realtà non troppo, ogni 23 colpi sparati passava un disco volante nella parte ancora più alta dello schermo che se colpito dava ulteriori punti. Insomma, il gameplay era questa formazione di alieni si spostava ritmicamente da destra a sinistra. Quando un alieno toccava il bordo dello schermo cambiava la direzione di tutto il gruppo e scalava di una linea in giù avvicinandosi alla posizione del giocatore, e quando si avvicinava e quando le linee diminuivano la velocità del loro spostamento aumentava e il gioco diventava sempre più difficile, centrarli diventava complicatissimo a un certo punto e spesso si moriva, prima o poi si moriva per forza fino al game over. Perché il game over poteva avvenire in due modi in realtà: o ti distruggevano tutte le astronavine o atterrava oppure l'alieno toccava terra arrivando in fondo. Esattamente. Sì. Ma quello per un limite tecnico, cioè nel senso che tu e l'astronave e l'alieno non potevate occupare lo stesso spazio nella stessa colonna praticamente. No, ma anche se avevi tre vite e l'alieno toccava terra il gioco finiva. Finiva. È vero. Vabbè, ma in realtà all'inizio comunque è un gioco che non aveva un lieto fine, prima o poi morivi, quindi cioè l'unica cosa che potevi fare era morire il più lontano possibile e fare più punti, prolungare la tua agonia. Così ma era questa una vera vittoria? Chi lo sa? Non lo so, questo lo può sapere solo Sant'Agostino, che è uno scienziato del videogioco. Io non lo so, perché non sono mai arrivato oltre un X livello, che adesso potrei dire anche il terzo volendo. Sì, il problema è che non aveva livelli differenti, era sempre lo stesso che si ripeteva. Sì, era uguale. Non so se andava un po' più veloce poi piano piano, perché io... No, sempre uguale, almeno. Non ho questa memoria in effetti, però quindi mi fido ciecamente di quello che dici, che sicuramente è esatto. Perché i videogiochi come Space Invaders possono essere, anzi devono essere, un elemento di racconto storico, perché sono sì la storia della nostra società, le storie di costume, ma sono comunque storie importanti anche riguardo alla nostra evoluzione tecnologica, informatica, videoludica, che insomma come sempre noi vi raccontiamo, ma allo stesso tempo possono essere anche degli elementi affettivi, perché quelli come me possono dire che a Space Invaders ci hanno voluto bene, no? Lo so che è una follia, insomma, però purtroppo succede anche questo nel videogioco. Non so, tu Sant'Agostino, c'hai mai voluto bene a Space Invaders? L'ho amato come tutti, no? Come tutti quelli che hanno amato il videogioco. Space Invaders, io oltretutto ho amato il videogioco prima, che lo racconto spesso, l'ho raccontato anche nell'ultima puntata di Video Ludica. Mi sono innamorato del videogioco prima che arrivasse Space Invaders, in realtà. L'anno precedente. Quando è arrivato Space Invaders sono rimasto appiccicato a quel cabinato, credo, per tutta l'estate del 1978-79, quindi è stato veramente un amore assoluto, e poi per tutti i videogiochi che, come ho detto, da lì in quegli anni fu veramente un'evoluzione talmente rapida che adesso faccio fatica a rimettere insieme i pezzi di quel successo. Quindi è veramente, beh, solo con la memoria individuale è praticamente impossibile, perché come hai detto impossibile. È uscito talmente, cioè è successo talmente tanto e ogni volta era una folgorazione, tante volte, no? Esatto, è uscita sta cosa nuova bellissima, via di colori, realistica e via dicendo, insomma, e quindi è un po' complicato. Invece te, Gianluca, che pensi? Cioè, se tu pensi a Space Invaders... Io ne sono ancora innamorato, anche se quando è uscito non ero ancora nato, ma ripeto, su Commodore 64 ero veramente piccolo, ma ci giocavo un sacco, e questo mi dà anche da pensare su quanto fosse, sul perché fosse così magnetico quell'Avenger, che poi in realtà era davvero Space Invaders. Cioè, era veramente una di quelle formule nate perfette. Il videogioco in tantissimi generi si è perfezionato nel tempo, però se oggi dobbiamo pensare a quanto è migliorato il fixed shooter da Space Invaders alle formule più avanzate della stessa categoria, io ci vedo pochissima distanza. Forse Galaga è meglio di Space Invaders, ma di tanto no. Quindi gli riconosco una enorme importanza storica e culturale, e sì, anche affettiva per me. Per quanto fossi veramente piccolo, l'ho giocato tanto e ricordo nitidamente quei momenti in cui ci passavo veramente delle ore anch'io. Quindi bellissimo ricordo anche per me. Su Atari 2006 mi ricordo anche Phoenix, no? Che più o meno, cioè nel senso, c'è l'amico mio di sotto, del piano di sotto, che anche lui aveva l'Atari 2006, che poi lui prese la strada dello Spectrum, mentre io presi la strada dello ZX81 e poi dello Spectrum, quando io presi la strada del VIC-20 e poi del 64. Quindi, Dark Side versus Light Side. No, ma la cosa bella è avere avuto l'opportunità di viverle entrambe le cose, perché, perché questo mi ha veramente lasciato tanto, no? Perché altrimenti sarei stato quello che diceva il 64 era meglio, ma non avrei mai avuto consapevolezza che poi il meglio e il peggio, come al solito ho detto, non esiste. A me lo Spectrum mi ha sempre affascinato per cose che il 64 non se le sognava neanche, e viceversa. Cioè, quindi in realtà grande questo vale per tutto in generale, poi non, non è questo, cioè, non limitiamola solo a Spec 64, che poi, se vogliamo, come ho avuto modo di raccontare spesso, è una cosa molto italiana, se nostra, nostra, perché anche se vedo che pure in Europa, insomma, ho visto che in qualche nazione europea, no, in Inghilterra, in Germania no, per esempio, in Francia neanche, in Spagna, Italia, Spagna, Inghilterra, diciamo, un po' sono le zone dove c'è questa diatriba Spectrum Commodore 64. Nel resto dell'Europa, nel resto del mondo, soprattutto se esci dall'Europa, zero, cioè proprio non esiste. Sì. Quindi è una poi cosa personalizzata in base alla nazione. Ma poi da noi c'era più o meno quello. Invece, guardando anche War Games, no, come facevamo riferimento l'altra volta, cioè nel senso, in America, secondo me c'era già un accesso a una quantità di roba che probabilmente da noi neanche c'era. Quindi, sai, lo Spectrum per 64 erano cose che stavano all'interno di un universo molto più vasto. No? Quindi, come ho raccontato l'altra volta, i mercati erano assolutamente locali. Come hai accennato tu, c'era la globalizzazione, quindi era qualcosa che succedeva così in un posto, non è detto che succedesse la stessa cosa in un altro. Avete cose da aggiungere rispetto al tema? Perché allora, tu hai accennato, guarda, solo un'ultima cosa, prima hai accennato Phoenix, mi hai fatto venire in mente una cosa, che all'epoca Phoenix, soprattutto in Italia, ebbe tantissimo successo, quasi comparabile, mentre negli Stati Uniti e il resto del mondo Galaxian e Galaga ebbero sicuramente, anche in Italia, sia Galaxian che Galaga, però non so come mai, ma in Italia Phoenix fu molto amato da tantissimi, anche io me lo ricordo molto e l'ho giocato molto, come videogioco Phoenix, come fixed shooter, mi piaceva veramente tantissimo, se non sbaglio, però questa è una cosa che devo controllare, perché francamente devo effettivamente ricordarmi e andare a verificare. Phoenix fu il primo videogioco che introdusse il concetto di livelli completamente diversi e mostro finale. alla fine c'era, mi pare di ricordare anche a me questo, sì. Alla fine, beh, su io Phoenix non so se era il primo, ma so che sicuramente era così, perché in effetti, cioè, ogni livello era diverso, era tipo a Cilide 5, poi, se non sbaglio, una cosa del genere, cioè, nel senso, esatto, che... esatto, sì, ma forse non è il primo a introdurre livelli diversi, ma è il primo sicuramente, perché c'era anche Scramble, per esempio, ce ne sono altri che mi vengono in mente adesso, però sicuramente è il primo che ha questo mostro finale gigante, il boss finale. Esatto, l'introduzione del boss finale, forse il primo che introduce questo concetto del boss finale, che era veramente una cosa notevole per l'epoca. Anche qui un esempio di narrazione, poi come era importante anche in questi giochi così vecchi, un genere come il fixed shooter, uno si rende conto dopo tanto tempo di ricordare più Phoenix che altri più famosi, perché forse era la narrazione a imprimere determinate immagini, determinati ricordi. Sì, sì. Io ricordo tanto anche Vanguard, ce ne sono parecchi, insomma. Ma anche Gorf aveva questo sistema, no, di livelli diversi. Sì, aveva anche lui livelli diversi. Non ricordo se era, forse era successivo in effetti a Phoenix. Però è successivo comunque lì in giro. Molto vicino. Gorf ce lo ricordiamo sicuramente perché era anche quello una delle prime cassette, una prima cartacea sia delle Big 20 che del Commodore 64. E oltretutto sì, era uno dei pochi che avevano proprio i diritti ufficiali del videogioco, cioè era proprio l'ufficiale arcade, non era come Avenger o Pac-Man, sì, che erano dei cloni, infatti. Insomma, Gorf sia sul 64 che sul VIC 20 era ufficiale, licensed officially from the arcade, c'era proprio scritto sulla cartridge sopra Gorf. Va bene, dai. Bene, ragazzi, faremo altre 1000 puntate, dai. Ma tanto allora, diciamo, se riusciamo a tornare a luglio con una terza puntata, se no ci vediamo direttamente a settembre, però ci proviamo a tornare a luglio con un'altra puntata e cercheremo poi di riprendere il percorso dal punto di vista cronologico da dove l'abbiamo lasciato con l'episodio numero 1. Vi abbiamo raccontato questa straordinaria storia di Space Invaders, che viene prodotto come uno fra tanti e finisce per diventare l'icona non solo di una generazione, ma probabilmente di un intero medium, e forse involontariamente, forse volontariamente, non importa, fatto sta che questo è quello che è successo e noi oggi, insomma, ci facciamo ancora le magliette con i vari Space Invaders, i vari mostriciattoli pixellosi che ci accompagneranno per chissà quanti anni ancora, perlomeno quelli della nostra generazione, perché magari quelli più piccoli lo conoscono di meno. Io ringrazio e saluto chiaramente Gianluca Santilio. E vi ringrazio per avermi invitato. Sono felicissimo di essere tornato a fare un podcast con te, Simone, mentre per Carlo mi sento addirittura privilegiato a fare qualcosa con lui e potergli chiedere, certo, direttamente le mie curiosità, quindi un piacerissimo. Beh, come sempre, suppongo che avete i reciproci contatti, potete anche parlare. Sì, ma poi passo per stalker. Ma siamo tutti degli stalker di noi stessi, quindi questo non è esatto, un problema. E fa sempre piacere, perché considero Gianluca, vabbè, lo sapete, insomma, fa parte di questo team perché abbiamo pensato a questa riedizione, perché Sant'Agostino ha detto bisogna rifarla bene, però insomma Gianluca fa parte del team perché l'abbiamo pensato con lui e con Saso, quindi è una cosa, insomma, quasi oggi imprescindibile, altrimenti questo programma, insomma, sarebbe soltanto io e Carlo, sarebbe complicato. Però quindi ringrazio Gianluca da Santilio, appunto, del canale Archivio del Signor Santilio su YouTube, e collabora anche insieme a tante altre realtà, comunque Calavera Caffè, il podcast delle avventure grafiche. Ciao Gianluca. Ciao. E ringrazio chiaramente anche Carlo Sant'Agostino di Archeologia Informatica, Retro Campus e tutta una serie di vaste realtà che insomma fanno parte della storia dell'informatica e del videogioco, quindi ciao Carlo. Ciao e grazie a tutti e grazie Gianluca. Ricordo che Santilio inizia anche con come Sant'Agostino, quindi abbiamo questa cosa in comune, anche l'inizio del cognome. Vabbè, ma no, basta, se fossimo stati, questa cosa comincia niente inquietante, quindi lascia. Se fossimo stati a scuola saremmo stati vicini nell'elenco, infatti, interrogati uno dopo l'altro. Esatto. Vicini stavate. Va bene, quindi ringraziamo Carlo Burigana per gli assets audio, ringraziamo Alex Raccuglia per la grafica, ringraziamo Giuseppe Saso che sarà presente quasi sicuramente nel prossimo episodio e tutti coloro che collaborano a questa produzione come Andrea Milana, e prossimamente entrerà a far parte anche Davide Gatti con le sue anche di musiche, perché è giusto insomma dare spazio alle produzioni di tutti che poi ci aiutano anche a spezzare le lunghe conversazioni. Da me Simone Pizzi è tutto, continuate a seguire Archeologia Videoludica, Videoludica, Archeologia Informatica e tutti i programmi di Runtime che oramai sono ritornati in pompa magna e da settembre, come abbiamo detto, inizierà una nuova stagione con una visione più allargata e soprattutto con più fede e convinzione, e quella fase di flessione, di stanchezza, diciamo, che forse era anche fisiologica dopo 7-8 anni, sta per passare. Insomma, abbiamo delle idee per diventare sempre più radio, sempre più contenuti, sempre più insomma invadenti e rompicoglioni come siamo di solito. Quindi grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.